Io non vi ruberò più di 20 minuti, ho un congegno particolare per darmi il tempo. Questa è la nuova universitaria. Appunto, dicevo, un gesto simbolico, perché, scusate, una correzione nella trasmissione telefonica del titolo è risultato il titolo del mio intervento Tipologia delle istituzioni scientifiche, che mi sembra estremamente ambizioso e del tutto difforme dalla pure così distorta mia professione di italianista. Quindi è in realtà tipologia delle accademie scientifiche, soltanto. Tipologia delle accademie scientifiche, però mi pare in riferimento alla tipologia dell'istituzione accademica Tucù. Per questo mi è sembrato opportuno così esibire questi cinque ponderosi tomi farraginosi, con grandi dislivelli, molto squilibrati, non fosse altro perché dico un libro uscito quando il Mailänder era già morto, quindi senza che avesse potuto, come tutti voi sapete, no, apporvi quegli opportuni tocchi e soprattutto scrivere quell'introduzione che sarebbe stata essa la storia delle accademie italiane. Questo repertorio per ordine alfabetico, quindi si va dall'Accademia, il cui nome inizia con la lettera A, sino all'Accademia con la lettera Z. A me i repertori alfabetici piacciono moltissimo, credo che siano uno degli strumenti più affascinanti del lavoro dell'indagine storica, proprio per questa presunta neutralità, per questo presunto azzeramento, no, del discorso storico, che poi invece risulta esibito nel frontespizio. L'insieme che questi cinque volumi producono è un insieme, se ho ben calcolato, di 2689 accademie. Di alcune di esse non sappiamo nulla, se non il nome. Addirittura un centinaio di accademie romane del XVII secolo sono accademie di cui esiste soltanto l'emblema. Questo è già un codice alla Casaratense di emblemi bellissimi, coloratissimi, di accademie, però probabilmente mai esistiti. Comunque sia, possiamo togliere via tutto quello che volete, le accademie di dubbia presenza, quelle appunto confuse con altre cose, no? C'è dentro tutta la serie delle compagnie della calza, ad esempio, che certo accademia non sono. Sta di fatto che noi abbiamo questi 2689 eventi che si sono loro stessi attribuiti il nome accademia. E questo è un primo problema da cui partire, da questo insieme. Questi 2689 eventi che si sono chiamati essi accademia sono distribuiti, se sempre ben ho contato, in 369 posti. Sono disseminati sul territorio nazionale. L'insieme di queste due cifre, secondo me, deve farci riflettere su che cosa ha reso possibile che si chiamasse accademia qualcosa inventata, costituita a Bevagna, così come a Bologna, che so io, a Cisterna, a Codogno, a Corigliano, come pure a Ferrara, a Firenze, a Girgenti, a Gorizia, così pure a Milano, Napoli, a Padova come alla Pergola, Pennabilli, in provincia di Pesaro, a Rocca San Casciano, a Ripi, presso Frosinone, Sinalunga, Terni, Torino ovviamente, Ventimiglia, Verona, a Vico Garganico, a Vizzini, in provincia di Potenza e così via. Credo che la domanda fondamentale da cui partire è spiegare, tentare di decifrare le motivazioni che hanno portato persone più o meno individuabili, più o meno decifrabili, a promuovere un qualcosa cui hanno riconosciuto la possibilità di essere chiamata accademia. Qual è, insomma, il minimo comune che ha reso possibile la costituzione di questi cinque volumi, che ha reso possibile riconoscere omogenea, pur nei dislivelli mostruosi che si può dare, l'Accademia dei Lincei all'Accademia appunto di Rodi Gargano. Perché si chiama un'Accademia? Esiste questo luogo comune? Qual è insomma la forma profonda di questa istituzione? Io credo che il modo più affascinante, più interessante di tentare una risposta a questa domanda di partenza è prendere atto del fatto che questa istituzione accademia, nella sua storia di lunga durata, esistono ancora le accademie ed hanno anche discreti danari dal governo italiano, perché esistono, si sono sparpagliate ovunque, ancora oggi, l'Accademia ha parlato, parla, ha parlato di sé, ha detto che cos'è e che cosa voleva essere, ha prodotto il proprio discorso. Io vi proporrei una brevissima citazione che a me è sembrata affascinante, di Pietro della Valle, è citata in un assaggio di Pecorella, credo che poi nei prossimi giorni potrà farvi anch'esso riferimento. Pietro della Valle è in viaggio, si trova in Persia, in Spagna, scrive a Roma. Certo, qui è bello, affascinante, vedo tante cose nuove, ma quelle accademie, quei begli ingegni coi quali ragionando sempre si impara qualcosa, quel conferire, quelle librerie, quelle nuove di tutte le cose del mondo, particolarmente della corte di Roma, quei discorsi, quel conversar con genti che parlano e rispondono a proposito, quelle tante altre cose che pascono l'animo di un uomo che non è nato irrazionale, posso io negare che non sia cosa da crepare l'esserne privo? In Persia le accademie non c'erano. Ma cos'è che non c'era? Non c'era la possibilità di produrre conversazione, di produrre discorso, di produrre ragionamenti. Questa testimonianza non è che la voglio usare oltre, però la collegherei, e in questo mi ha fatto piacere che ieri Raimondi partisse da Tiraboschi, la collegherei a quel tentativo di definizione generale del fenomeno accademia che Tiraboschi dà. La struttura tripartita, quella struttura a cui faceva riferimento Raimondi, no? Rapporti coi principi, istituzioni, università, eccetera, è presente in tutti i volumi, secolo per secolo, no? È la scansione. Apro un inciso, mi pare che quest'anno scadesse una qualche ricorrenza del Tiraboschi, con mio rammarico non si è fatto nulla, perché da diversi anni ho in mente un grande elogio del Tiraboschi. Il Tiraboschi si può fare anche fuori delle che sembrano imposte, fuori della circostanza della... Ma le occasioni vanno accolte. Tiraboschi dice, è uno che se ne intendeva perché l'aveva viste tutte: sotto questo nome di accademia io intendo quelle società, la società di uomini eruditi, un livello di acculturazione, di alfabetizzazione almeno, stretti fra loro con certe leggi, scritte o no, certe leggi, a cui essi medesimi si soggettano, quindi un atto volontario di associazione, che radunandosi insieme si fanno a disputare su qualche erudita questione, o producono, quindi, o il livello della discussione, conversazione, quindi un sistema di oralità, o producono, quindi, un livello della scrittura, e sottomettono alla censura dei loro colleghi qualche saggio del loro ingegno e dei loro studi. Mi pare che questa definizione di Tiraboschi sia di una semplicità e di una totalità formidabile. Dice tutto. Che cosa dice? Che l'Accademia è una societas, implica un lavoro collettivo. L'Accademia, ed è questo il rilievo che ieri avanzava, non può non essere considerata soggetto collettivo, l'insieme del lavoro che produce. In quanto gli uomini eruditi che ne fanno parte si radunano insieme, ed è quell'insieme che conta, è l'atto del radunarsi che costituisce l'Accademia, e producono oggetti culturali. Quindi, oggetto culturale che può essere e non essere scritto. Questa è un'altra distinzione, per tener conto dell'insieme della fenomenologia. Ma, dico, i rinvii a esemplari, a materiali, del discorso che l'Accademia ha prodotto su di sé, può andare all'infinito. Io mi permetto di proporvene un altro senza citazioni d'appoggio. In quello splendido, capitale testo, a mio avviso, non soltanto della cultura italiana, ma di dimensione europea, che è La civile conversazione del Guatt, testo che ha avuto una capacità fondante di un sistema culturale a tutta Europa, c'è una parte centrale che dice: che cos'è questa civile conversazione? E quando è possibile che sia civile? E qual è il luogo in cui la sua civiltà è superiore? È l'Accademia. Cosa implica questo? L'Accademia è il luogo dove è possibile produrre discorso erudito, dice Tiraboschi, ma riferito a Guazzo, è letterario, nel senso e nell'estensione che il letterario ha in una fase cinquecentesca, con un rapporto che da un punto di vista formale è un rapporto di frontalità. Nell'Accademia si parla stando uno davanti all'altro, così come ora stiamo facendo, nel senso che disegna un modello antropologico della comunicazione che è fondato sulla frontalità e sulla oralità di questo essere di fronte. Ora, non dico che questo sia l'elemento di base, ma è probabilmente, ed è una mia persuasione che vi propongo, è la forma profonda dell'Accademia, è l'elemento che consente di trovare e di spiegare come mai un'Accademia di Roma è omogenea ad un'Accademia di Bitonto e perché il gesto accademico di riunirsi a conversare risulta sul piano di questa estesa, enorme fenomenologia di lunga durata, alla fine, nel suo profondo, omogeneo. Ma il problema va posto in termini anche diversi. Ammettiamo che questa proposta di definizione, no, che vi propongo, della forma più profonda dell'Accademia, funzioni, vediamo se e come. Questa forma è una forma integrata o è una forma discreta? Nel senso, è una forma compatta o va a partire dal suo riconoscimento smontata, tipologicamente differenziata? Io credo che la tipologia delle accademie, a partire da questo minimo comune, sia una tipologia profondamente differenziata. E su questo, credo, già ieri sono venuti fuori molti elementi, gli studi d'assieme e soprattutto gli interventi di Pecorella in questo senso sono illuminati, sempre tenendo conto del rischio. Ma è l'Accademia stessa che riconosce, il discorso dell'Accademia che riconosce se stessa come differenziata. Le accademie o sono pubbliche o sono private, no? È il titolo proprio di uno dei più antichi scritti intorno ad Accademia. Ma andiamo sempre a vedere rispetto all'assieme che rapporto si dà. Vi propongo un calcolo così a occhio del lavoro di schedatura che sto facendo, ho gran parte fatto di questi 5 toni. Il 90% delle accademie che qua dentro stanno sono di natura strettamente privata ed appartengono appunto al regno di quell'effimero di cui ieri si parlava. Alcune, ma poche rispetto a questa cifra così schiacciante, hanno un processo di modificazione, passano dallo statuto di accademia privata allo statuto di accademia pubblica e l'esempio fiorentino, no? Basta per tutti. Alcune altre nascono ufficialmente, proprio per fondazione pubblica, ma sono pochissime. Ma resta pur sempre il dato unitario che in tutte queste variabili che noi possiamo porre all'insieme, tenendo conto però dei dati quantitativi, no, dei dislivelli quantitativi che questo insieme ha, in tutte queste tipologie differenziate, i membri, nel momento in cui volontariamente si radunano, dicono le loro esperienze, le discutono, le propongono, censurano. La censura nasce, è uno degli istituti fondamentali del lavoro accademico. Nessun accademico può stampare un'opera col nome accademico se non è l'Accademia l'averla discusso. Ma si danno anche diversi livelli differenziati di istituzionalizzazione. Ma credo che proprio su questo l'intervento di Pecorella sarà importante, quindi non mi dilungo. Ci sono accademie con o senza leggi, leggi scritte o non scritte, con o senza apparato burocratico, con o senza cariche, con o senza il nuovo nome. Il fenomeno del nuovo nome, del rinominarsi, è uno dei fenomeni più tipici, più vistosi, e che non può essere visto soltanto in termini così di una deviazione curiosa, no, o banale. C'è un meccanismo di una sorta di processo di rito di iniziazione e di riconoscimento collettivo del fatto che in accademia non si riproducono i dislivelli della società reale, e l'accademia è una repubblica di uguali, è una sorta di microsocietà. E poi c'è l'elemento giocoso, certo, perché dico, a conversare insieme Pietro della Valle ce lo dimostra, si sta bene, è piacevole. C'è l'elemento del piacere, del godimento, della conversazione. No, forse oggi in una società di comunicazione di massa e di tanti altri sistemi così di tempo libero o proprio di intrattenimento, di pratica sociale, abbiamo perduto, non riusciamo a comprendere questo. Ma all'interno di una società d'ancien regime, dico, la conversazione è questo. Quel 90% di accademie private che restano private sono accademie di salotto, in casa di qualcuno. Prendere il tè e partecipare. Quindi, teniamoci un attimo all'accademia nella sua accezione più complessiva, senza specificazioni interne. Cioè l'accademia come adunanza, come congregazione, come incontro, destinata però a essere civile, nel senso che il guazzo dice. Vediamo come e quando, tentiamo di vedere come e quando nascono le accademie settoriali, le accademie appunto scientifiche, le accademie artistiche, le accademie musicali, le accademie teologiche, teatrali e via dicendo, cavallereschi appunto. Nascono dopo, nascono tardi, grosso modo negli ultimi decenni del Cinquecento, in fase cinquecentesca avanzata. L'Accademia nasce invece nella sua forma, appunto, che resta una forma umanistica, come conversazione civile di un sapere che può essere detto nel circuito della comunicazione, in quanto è un sapere unitario, che si riconosce unitario, che riconosce la circolarità del suo poter essere detto e del suo poter essere ricevuto, e quindi è percorribile. E questa, dico, la storia dell'Accademia a questo punto si sovrappone alla storia tormentata del sapere occidentale nella fase traumatica di grande trasformazione tra 5 e 6. Le accademie possono essere un, punto di osservazione o di verifica di quella che è stata appunto chiamata la grande frattura epistemologica, che si dà tra 5 e 600. La nascita, cioè, di forme di sapere parziali, settoriali, specifici, ma queste forme di sapere specializzato, che cosa fanno? Producono linguaggio specializzato. Progressivamente si apre, no? Quella che si usa dire una forbice, per cui non è più possibile adunarsi tutti insieme per sentire discorsi che non è più possibile tutti insieme ascoltare. Ma perché allora, ed è la domanda che già ieri veniva fuori, in Italia ci sono tante accademie? Perché questo fenomeno è così tutto italiano? Gli amici tedeschi ci dicono, mi pare, no? In Germania, altro accademie, però non ci sono. Perché ce l'abbiamo soltanto noi? E perché sono tante e tutte locali, periferiche, ovunque? Beh, certo. Non possiamo non fare riferimento al fatto che la storia italiana è stata da sempre una storia di autonomie periferiche, locali, la storia degli stati italiani, del loro rapporto, delle tante capitali, la storia del tu benissimo. In negativo possiamo ancora fare riferimento, e giustamente, alla crisi delle università come luoghi di aggregazione, di produzione e riproduzione del sapere, eccetera, eccetera. Ma a mio avviso occorre tener conto di altri fattori che sono fattori in positivo. È un elemento che forse non è ancora venuto fuori, mi permetto di proporlo, è che dico, in questa fase di esplosione del fenomeno accademia, esattamente alla fase di esplosione corrisponde esattamente alla fase di esplosione dell'alfabetizzazione. E quando si citava il fatto, no, di esemplare certamente emblematico, vistosissimo, dell'Accademia Aldina. L'Accademia Aldina è un'accademia che produce libri, quindi il rapporto tra leggere e parlare, tra libro e accademia, mi pare evidentissimo, ma risulta chiarissimo. Ma il formato dovrebbe essere studiato a parte, la recezione senza analizzare il formato dei libri. Ma in questo dico, cioè, quel famoso saggio di Petrucci su libri da banco, libri da tasca e libri da Bisanzio. Basta vedere i romanzi del Seicento, dicono tutto. Ma dico, andiamo a vedere in una fase antecedente che cosa avviene nella coscienza di chi ha le antenne ben pronte a captare che cosa sta accadendo, che cosa sta cambiando. C'è uno straordinario libro di Anton Francesco Doni intitolato La libraria. Che fa Doni? Più o meno matto com'era, vuole fare un catalogo dei libri stampati, dei libri con manoscritti, se ne inventa quasi tutti. La terza parte è il catalogo delle accademie. Il rapporto stretto tra libro, alfabetizzazione e accademia è colto immediatamente come rapporto di reciprocità. Del resto, che il rapporto tra libro e accademia sia un rapporto vitale, lo sapete tutti, come esiste un bollettino ufficiale del Ministero dei Beni Culturali intitolato Biblioteche e Accademie. Quindi, l'omogeneità tra i due dati arriva fino a oggi. Ma questo credo non basta per spiegare come mai il fenomeno sia soltanto italiano. Perché dico, libri se ne stampavano in Germania. L'alfabetizzazione cresce forse in modo ancora più forte, con ritmi di incremento più forte in Germania, figuratevi. La Bibbia tradotta, la funzione, tutte le materie. E allora io mi propongo un altro elemento di riflessione. Questa è estensione dell'accademia non rinvia forse al fatto che si va diffondendo un modello culturale omogeneo. Da dove viene questo modello culturale omogeneo? Da dove viene il modello del rapporto frontale tra uomo dotto, letterato, in termini di civiltà e di conversazione? viene dalla corte. Il modello che c'è dietro è il modello cortigiano. Qui vado rapidissimo, perché altrimenti vado, sballo di troppo. E vengo all'Accademia Scientifica, dopo questo grandissimo cappello. Beh, devo dire che per preparare questo intervento a Trento, io mi sono ripercorso le tante schede del Melende, l'ho guardato, ho visto in giro. Questa Accademia Scientifica non ci sta. Sono pochissimi. Le accademie fondate perché siano addette alle scienze, ammesso poi che abbiamo una percezione tutti tra noi molto chiara e compatibile di che cosa abbia da intendere per accademia scientifica, per scientifico nell'accademia, sono pochissimi. In questo volumone qui mi pare che ce ne siano poche decine sull'insieme. Perché? Forse perché si dà una incompatibilità tra la forma accademia e la forma che il sapere, il nuovo sapere scientifico va assumendo. Una sorta di divaricazione tra la forma appunto di una civile conversazione, questa è antropologia della conversazione, del discorso, del logos, rispetto invece ad una pratica che ha una componente di manualità. No, nella nuova scienza sperimentale è la mano, no, che la fa. Quindi l'esperienza e il collegamento, come accennava Raimondi ieri, con l'esterno, l'artigianato, no, la produzione dello strumento, con l'esperienza, con la tecnica. Queste accademie, le poche citabili, si chiama cimento e investiganti, quindi una dimensione che è sperimentale. Questa nuova forma, questa nuova pratica del sapere, per essere comunicabile, inventa, assume altre forme, altri circuiti. Sono le forme e i circuiti appunto delle memorie accademiche, degli acta accademici. Ma assume anche, a mio avviso, una forma che non è stata messa in gioco ieri e che forse è quella decisiva, dal mio punto di vista, i circuiti epistolari. Nel momento in cui il modello accademico perde, no, la sua carica, noi possiamo riconoscere sotterranea, sulla superficie europea, una ragnatela incredibile di lettere che partono e che arrivano. Ora, io conosco due di questi circuiti epistolari da un'ottica che, scusate, italiana, ma il riferimento a quello sterminato circuito, quello magliabechiano, o all'altro altrettanto sterminato del Muratori, mi pare che spieghino come il nuovo sapere cerca rapporti di comunicazione che non hanno più bisogno di essere frontali, ma che possono essere a distanza. E dico, assistiamo a questo processo di trasformazione. Gli intellettuali, i protagonisti di questa trasformazione non vogliono più un'accademia, non la chiamano più accademia, resta l'immagine della società di uguali, ma si chiama ora Repubblica delle Lettere. Il processo, il primo processo è dall'accademia alla Repubblica delle Lettere, e direi che per la situazione italiana il fenomeno è di una evidenza incredibile. Noi abbiamo in Italia una sola, nella storia dei cinque secoli qui raccolti, nelle 3.000 circa accademie qui raccolte, una sola accademia di dimensione nazionale, una sola accademia che, dico, riesce ad aggregare in un centro, ad accentrare questa istanza di civile conversazione. È l'Accademia dell'Arcadia. L'Accademia dell'Arcadia si muove su una linea strategica che è oppositiva al disegno muratoriano della Repubblica delle Lettere, in una direzione oppositiva alla pratica muratoriana del suo terminato epistolare. Ma abbiamo anche un'altra grande trasformazione nelle pratiche di comunicazione del sapere in forma di, pur sempre, di civiltà. La grande trasformazione è il passaggio dall'accademia a nuovi strumenti di aggregazione, la nascita del giornale. Sono questi, credo, i due grandi eventi che defunzionalizzano l'istituzione accademica proprio sul versante scientifico. L'invenzione del giornale, dico, il giornale diventa lo strumento laddove è possibile far passare le scienze storiche, le scienze giuridiche, le scienze agrarie, le tecniche, eccetera, eccetera. Non più l'accademia. La ricomposizione, in qualche misura, del lavoro intellettuale avviene in questa nuova forma. Un caso emblematico, pur sempre riferito alla situazione italiana, estremamente curioso, ma fortemente emblematico, nella nuova situazione settecentesca, questa nuova cultura liministica, che fanno i fratelli Verri quando vogliono scambiarsi le idee con loro coetanei o loro così simpatetici? Prima fondano un'accademia, dopo pochi mesi la chiudono e aprono un giornale. Ecco la forma. Quindi su queste variabili nella lunga durata io credo che la collocazione delle accademie scientifiche si ponga in termini che sono termini così di difficoltà. Le accademie scientifiche stanno strette nel loro essere accademiche. È altrettanto complesso, diventa, il rapporto tra accademia e università. Certo, le esperienze toscane a cui si è fatto più volte riferimento sono importanti, ma io potrei citare anche l'esperienza mantovana. Quando Pio IV nel 1564 autorizza l'Accademia degli Invalidi di Mantova a conferire laurea a laureati. Quindi dico, il fenomeno potrebbe essere più sottile, ma è purtroppo quello che si riconosceva più volte, il problema di studiare un po' a fondo, ed è una delle carenze più gravi della nostra storiografia, l'istituzione università. Abbiamo solo strumenti settottocenteschi, dico. Adesso si va facendo qualcosa. E qualcosa abbiamo fatto sul padre Piacenza, ma soli, lo sapete. Dico, io avevo promesso l'esempio Medinaceli, ma casomai lo utilizzo come elemento di riporto nella discussione, con una brevissima, casomai, l'Accademia di Medinaceli è uno dei pochi esempi di accademia inventata, programmata dal potere centrale. C'è il viceré, il duca della Serra di Medinaceli, a Napoli, tra 1692 e 98, a fine 600, dice, chiamiamo a corte, l'accademia si chiama Palatina perché si svolge nel Palazzo Reale, gli intellettuali emergenti. Lì il problema si collega alle fasi. Questo momento che abbiamo due storiografie che hanno camminato parallelamente. Problemi italiani che i tedeschi non hanno considerato. Problemi tedeschi che gli italiani hanno ignorato. E invece nel corso di questi giorni noi abbiamo via via caratterizzato differenze senza dubbio, ma differenze che non erano più vie parallele, ma vie che in qualche modo si sono venute incontrando e confrontando. Abbiamo sentito, per esempio, della politica ecclesiastica, perché lo scisma è il centro, il momento centrale della politica ecclesiastica di Federico Barbarossa. E mi permetterei di rilevare che, prescindendo dalla complessità e dalla problematicità della presentazione del problema da parte del professor Capitani, ma io mi permetterei di dire che anche nella politica ecclesiastica noi ci siamo trovati di fronte a due sistemi, come è stato detto stamattina a proposito delle realtà politiche. due sistemi, i quali per ciò stesso non potevano conciliarsi se non sul piano della politica, cioè del compromesso. Questo dà a Federico Barbarossa, quando noi pensiamo poi a quello che è accaduto con le città, questo dà alla politica del Barbarossa una singolare e direi interessante caratterizzazione di complessità umana. Il poter giungere al compromesso significa capacità di accettare realisticamente le situazioni. E dunque Federico Barbarossa lotta per i suoi principi, ma accetta, riconosce e si adegua a realtà che sente più forti di lui. E abbiamo allora la singolare situazione dei suoi collaboratori in Italia e in Germania. Non a caso per l'Italia noi abbiamo parlato di alleati, per la Germania di Mitarbeiter. Quest'uomo riconosce che in Italia ha delle forze con cui deve entrare in un rapporto di relazione, di dare ed avere, relazione di alleanza. In Germania noi abbiamo viceversa il collaboratore come fedele che esegue, sia pure, come nel caso di Reinhard von Dassel, con grande autonomia, con spirito di iniziativa, ma orienta una azione politica dell'imperatore. Questo imperatore dunque ha dinanzi a sé una realtà difficile, complessa, diversa in Italia, in Germania, ma non dimentichiamo anche il regno di Arl. Quella indicazione che noi abbiamo avuto che per la prima volta Arl è il centro dello Stato, è la capitale, la Hauptstadt. Vi ricordate il problema delle cinque capitali? Ebbene, prova che vi è in Federico Barbarossa una visione concreta delle realtà politiche con le quali egli si trova a dover agire. Realtà politiche diverse e complesse, il cui centro, diciamocelo subito, è la Germania. Federico Barbarossa non è davvero quel sovrano il quale trascura la Germania per i sogni di potenza in Italia. Federico Barbarossa, se ho ben capito quanto è emerso dai nostri giorni, è un grande sovrano, prima di tutto tedesco, che peraltro ha la coscienza imperiale di essere al di sopra delle nazioni. Quando noi sentiamo che Barbarossa chiama gli altri regni italiani province, gli altri regni europei province e gli altri re italiani e gli altri re europei reguli, è la ripresa non soltanto di quello che noi abbiamo chiamato il diritto romano, i giuristi romani, eccetera, ma è la ripresa della tradizione del Sacro Romano Impero, tradizione che egli sente viva e profonda. Se noi abbiamo potuto parlare un'ora di una divergenza, di una opposizione fra due sistemi, quello dell'impero e quello della Chiesa, questo è perché Federico Barbarossa ha una sua coscienza imperiale che gli permette di guardare all'Italia, al regno di Arles, come a suoi regni, ma nello stesso tempo come a suoi regni con una visione sovranazionale, anche se a preferenza tedesca. E dicevo poco fa, sovrano che nel riconoscere le difficoltà è realista, ma è realista anche in un altro, da un altro punto di vista. Noi abbiamo sentito nella splendida via che ci ha aperto Nicola Cilento, noi abbiamo sentito come e fino a che punto profondamente Federico riprendesse una serie di indicazioni che gli venivano da secoli prima di lui, diciamo pure da Carlo Magno, e che erano andate sempre fallite, ma che esistevano come tradizioni dell'impero. Ebbene, il matrimonio con Costanza d'Altavilla non è dunque l'avere inseguito un sogno nella terra del sole, come immaginosamente ha scritto qualcuno, ma è piuttosto invece la conclusione di un piano e di un ideale politico che era lentamente maturato per secoli e che Federico Barbarossa ha realizzato. Non vi è un mito che si insegue e per caso si realizza, ma vi è la possibilità del calcolo politico. Il professor Cilento, se nel testo della sua relazione e nella sua discussione ha ripetuto che la decisione di Guglielmo II era incomprensibile, e in tedesco abbiamo detto sì, unverständlich, ebbene, la decisione dal punto di vista di Federico Barbarossa è invece assolutamente chiara, è la conclusione di una linea che si è lentamente preparata per secoli. Per cui chi è l'alto sovrano del regno del sud, il papato, apparentemente ha vinto la sua battaglia politica, almeno fino a Federico II, apparentemente ha vinto la sua battaglia politica di avere l'Italia meridionale. In realtà, chi in questo momento col matrimonio ha realizzato una lunga meta, una lontana meta dell'idea imperiale, mi sembra Federico. Potrà sembrare un po' strano che io, italiano, stia facendo un elogio di Federico Barbarossa. Ma noi dobbiamo qui guardare alle realtà politiche effettive. E allora diventa in questa prospettiva che io mi permetto non di porgervi come conclusione, ma come mia riflessione personale, dopo di aver ascoltato, credo, attentamente tutti quanti, mi pare, ne viene che la politica italiana acquista un significato molto grande. quanto abbiamo sentito questa mattina dalla professoressa Fasoli, che ci ha fatto vedere come questa Lega non si possa assolutamente intendere sul piano e sulla linea risorgimentale come una unione fraterna degli italiani. Varie volte è stato sottolineato, e in italiano e in tedesco e in aggettivi e in sostantivi, la debolezza della Lega, la vastità della Lega. Oggi noi italiani abbiamo una parola moderna molto antipatica, la ingovernabilità della Lega, se tu mi permetti di questo feroce anacronismo che riguarda noi oggi, ma che vale anche per la Lega. La ingovernabilità della Lega è la fine del mito risorgimentale ed è allora una giustificazione di Federico Barbarossa. La lotta di Federico Barbarossa con la Lega Lombarda non è un accanimento contro le città, è uno dei tentativi, il primo, sia pur lungo e tenace tentativo, di creare in Italia la pace. Abbiamo sentito parlare della dieta di Roncaglia come Landfrieden, sia pure con tutte le attenuazioni del caso, cioè quella politica che Federico Barbarossa ha cominciato in Germania con i Landfrieden dal 52 al 54, con le divisioni territoriali della Baviera e la creazione del Ducato d'Austria, ma è la politica che viene sviluppata nelle forme che l'Italia consentiva anche in Italia, benché poi in Italia si trovasse quell'altro sistema, come diceva la professoressa Fasoli, quell'altro sistema che è dato, che le città si sono venute dando, si sono venute creando in una specie di sistema di rapporti per il loro ampliamento territoriale, per i loro contrasti interni, che la Lega Lombarda interrompe per breve giro d'anni, ma che riprenderà dopo. Ma che a un Landfrieden Federico abbia sempre pensato, lo prova, ma non è qui il caso che io mi estenda, con la politica dopo Costanza, quando a un certo momento Federico Barbarossa, cambiando la sua politica, crea un nuovo sistema nell'Italia settentrionale soprattutto, e poi centrale, ma è molto meno importante, come ci è stato detto, ed è un tentativo che, badate, ha in qualche modo assicurato la pace all'Italia settentrionale per alcuni anni. E d'altra parte, questa esperienza umana di questo imperatore, dunque, che ha una forte coscienza della sua autorità, ma anche una, a me sembra, chiara visione concreta della politica, ebbene, allora ci rendiamo conto dell'importanza di quello che noi abbiamo sentito questa sera dalla relazione del professor Friedrich. Questa relazione dalla quale emerge, e nell'ultima parte è stato detto con estrema limpidità, emerge che vi è stata una stimolazione della politica economica di Federico dalla esperienza italiana. Quest'uomo non ha vissuto con gli occhi chiusi l'esperienza italiana, non ha vissuto una esperienza soltanto politica e militare, ma anche, forse per certi aspetti, in maniera importante, l'esperienza economico-sociale. Quello che noi abbiamo sentito indirettamente dalla relazione del professor Engels, abbiamo sentito dal professor Fried, abbiamo sentito in qualche modo dalla professoressa Fasoni, cioè questa politica, che è poi politica di Federico Barbarossa verso le città della Germania, ebbene, questa politica si esplica e si chiarisce proprio nella esperienza molteplice italiana e tedesca, tedesca e italiana di Federico Barbarossa. Dunque, una personalità che non ha torto, come abbiamo sentito, ha nella storiografia del suo tempo una importanza che è andata dalla collocazione nella storiografia simbolistica fino al panegirico dei cronisti bizantini. Una personalità importante. Un ultimo punto io vorrei ricordare, perché forse nello studio dei problemi politici ci è un po' sfuggito, o perlomeno non ci ha attirato come forse poteva darsi. Abbiamo parlato del realismo, della coscienza politica di Federico Barbarossa. In un intervento, non mi ricordo più di chi, è emerso il problema: ma Federico Barbarossa sapeva, ed è ritornato anche questa sera a proposito della politica economica, sapeva quel che faceva o si lasciava guidare dalle circostanze? Non so, mi pare forse io stesso o altri hanno ricordato quel pax et justitia che abbiamo detto si attua nei Landfrieden come concreta realizzazione politica. Ebbene, questa pax et justitia è degli Stauffer, ritorna con suo figlio, ritornerà con suo nipote, ma in Federico Barbarossa, a me pare, abbia avuto una realizzazione con un equilibrio, pur nelle crudeltà e nelle durezze di cui possiamo dire anche giustamente è stato incolpato dai cronisti italiani, pur con gli errori politici che egli ha commesso. Non dimentichiamo il gravissimo errore politico di Lodi, ma anche lì, Gina, io penso che dovremmo ricordare quello che ci si diceva ora a proposito di Enrico il Leone, il problema del prestigio che l'impero difficilmente poteva, come dire, rifiutare o in qualche modo respingere e criticare i suoi collaboratori, quei collaboratori di cui noi abbiamo sentito dal professore Herkenrath quanto erano ampi, quanto erano numerosi e perciò stesso anche difficili, diciamo pure, a tenere in pugno. E allora, se questo è esatto, a me sembra che in Federico Barbarossa noi dobbiamo sottolineare, dicevo, un punto, l'ultimo sul quale io mi fermo, che dovrebbe aiutarci a capirne la personalità. È un uomo che ha un senso severo del suo dovere. Non direi un senso religioso, ma un senso, se mi permettete un termine che non vorrei fosse inteso in maniera falsa, un senso autocratico del suo potere, del potere sentito però come dovere e responsabilità verso gli altri. Non altrimenti potremmo spiegare quella che a me sembra una delle più impressionanti realtà di tutta la storia del Sacro Romano Impero. Un episodio che curiosamente non è mai venuto fuori in questi giorni, ma che qui io questa sera devo ricordare, ed è la Curia Christi. questa strana, singolare dieta imperiale che fu presieduta da Cristo, perché il trono restò vuoto. Restò vuoto perché Federico in quel momento non era altro se non uno dei fideles, dei fedeli di Cristo, che si accingeva a partire per la crociata. E questo Federico che partiva per la crociata, anche senza indulgere alle fiorite espressioni dei cronisti bizantini, era un settantenne. E un viaggio in Terra Santa, alla testa di un esercito, tra difficoltà di ogni genere, degli uomini e delle cose, compie un gesto che può avere una sola giustificazione, il senso che ancora una volta doveva obbedire a un dovere che gli veniva dal suo impegno e dalla sua dignità imperiale. Il prestigio dell'impero di cui abbiamo parlato a proposito di Enrico il Leone, o a proposito dei funzionari imperiali, o a proposito dello stesso trattato di Costanza in cui il sovrano domina, è dunque non la manifestazione di una vuota potenza o di un'ambizione di potere, ma mi sembra, e con questo caratterizzerei in ultima analisi Federico Barbarossa, ma anche la manifestazione della coscienza del grosso impegno umano e civile e di dovere che ha un sovrano che non voglia soltanto sedere su un trono, ma affrontare i problemi che la storia gli offre. E Dio sa se di problemi grossi Federico Barbarossa ne ebbe davanti a sé. E con questo vi ringrazio tutti di tutto quello che mi avete insegnato e ci lasciamo per una migliore occasione. Ihnen, hochverehrter Herr Professor Marzelli, denn Sie haben hier viele notwendige Funktionen erfüllt. Sie haben das Ganze geleitet, den Vorsitz geführt, Vorbereitungen getroffen. Sie haben selbst ein großartiges Referat gehalten und durch die ständige Übersetzungstätigkeit überhaupt erst die Diskussion in vollständiger Weise ermöglicht. Es gab keinen Gedanken, den Sie nicht sofort in die andere Sprache übertragen hätten. Das Ganze gipfelt in der Conclusio, die wir eben gehört haben, von der wir, glaube ich, alle sehr befriedigt und beeindruckt sind. Ich persönlich muss nur sagen, dass ich mich den Ausführungen des Herrn Professors Manzelli voll und ganz hat er hervorgehoben von nationalem Zuschnitt. Das heißt, es sind eben doch mehr persönliche Kleine. Private, ma anche, vedi caso, a funzione pubblica perché serve per gli studenti. Documenti inediti provano, dicono che questi, gli oggetti di questo museo devono essere messi in armadi con rete a ciò che gli studenti li possano vedere e non portare via. Quindi mi pare che la pratica pubblica sia ovvia. Io per ricondurmi al discorso di De Quota, che mi ha molto interessato peraltro, soprattutto sul fatto che nelle accademie si discute sull'oralità all'interno delle accademie, vorrei riportare un altro passo inedito, è venuta fuori per mia fortuna una messa enorme di documentazione inedita. Si tratta di un manoscritto della fine del XVI secolo di Agostino del Riccio, l'agricoltura sperimentale, più volte usato ma mai totalmente pubblicato, proprio nella parte che riguarda l'orto pisano. Si dice, il detto messer Giuseppe Casabona, che era un grosso botanico fiammingo, fu mandato dal Granduca Ferdinando alla nobilissima antica e bella città di Pisa a creare un bello e vago giardino, tutto di semplici e piante di gran virtù, ed egli fece con grande prestezza. E poscia che sia uno spasso e un sostegno del nobile ed onorato studio pisano. E qui mi interessa. Che soventemente per suo diporto ci vanno gli onorati studenti insieme coi signori dottori a veder la lor bellezza, così erano ricevuti cortesemente e ragionavano dolcemente di tutte le piante che erano in quell'ameno e spassevole orto. Ora, evidentemente, non si tratta di un'accademia scientifica, si tratta di una struttura universitaria, pubblica, ci vanno gli studenti, evidentemente orti di questo genere ce n'erano moltissimi, ma erano privati, quindi gli signori li aprivano, gli erbolari li aprivano agli amici, ma qui ci vanno gli studenti, i dottori ci vanno gli scienziati. Quindi istituzione pubblica che però vede tutti gli aspetti che ha focalizzato prima, quando vede c'è in essa il rapporto con la verifica libresca, cioè non si zappettano solo le piante o si fanno crescere le piante, perché annesso a questo orto esiste una biblioteca altamente specializzata, dove appunto a disposizione di dottori e studenti. Abbiamo ritrovato circa più di 150 volumi, quindi si tratta di una biblioteca reale, non ideale, funzione scientifica. Esistono gli epistolari, cioè tutto questi fenomeni che tu prevedevi per le accademie, ci sono anche queste istituzioni scientifiche universitarie dove si fa della scienza concreta e proprio in questa fase appunto di culture epistemologiche. Epistolari tra i prefetti dell'orto, ma col Mattioli, col Clusio, col Pona, sono all'ordine del giorno e si discute di cose concrete. Quindi io credo che verrebbe un altro fatto abbastanza interessante. Il prefetto, cioè il direttore dell'orto, non è mai il lettore di botanica allo studio, sono due figure giuridiche diverse, però c'è un rapporto di stretta collaborazione. Assieme vanno a fare delle erborizzazioni con gli studenti. Quindi ecco teoria e pratica. Gli studenti si laureano nello studio pisano in botanica con lettore di botanica, ma fanno pratica concreta nel giardino. Quindi io credo che verrebbe veramente, se vogliamo, affrontare in maniera un pochino più radicale questo problema delle istituzioni scientifiche, di queste conversazioni, possiamo chiamare anche nell'orto stesso avvengono delle conversazioni, sono delle societas, ma dico, in esse appunto l'aspetto diciamo pratico scientifico ha il sopravvento e ha una grossissima, e forse possiamo dire sono forse le uniche istituzioni che prevedono ecco questo tipo di lavoro scientifico anche moderno, di impostazione moderna. Per ora grazie. Io sono in gran parte d'accordo con quanto ha detto Fonda, mi pare che siano emersi due punti essenziali, intanto il carattere privato dell'Accademia, no? Che si contrappone alla struttura ufficiale dell'università in larga misura, e poi proprio il problema, il fatto della conversazione, mi pare proprio la conversazione sia lo punto della pratica universitaria, dove c'è chi parla e chi ascolta, dove a parte le questioni istituzionalizzate, però insomma, in generale c'è la lezione che si ascolta in parte, invece qui c'è il punto, proprio il fatto che si discute. Ecco, e su questo io direi che però anche le accademie scientifiche, poi le scientifiche, questo principio lo prendono. Quello che distingue ancora anche in pieno 600, 700, le accademie scientifiche, anche dall'insegnamento universitario, anche scientifico contemporaneo, è che nelle accademie si fa anche l'esperienza in comune e soprattutto si discute. Se si pensa per esempio che le esperienze degli accademici del cimento sono presentate proprio come lavoro collettivo, cioè è un lavoro che si fa insieme, discutendolo insieme, e traendone le conseguenze e lavorandolo anche insieme. C'è questo elemento della conversazione che continua. E in questo senso, quindi, anche io ho l'impressione che anche l'epistolografia sia l'allargamento della conversazione, proprio sia proprio l'estendersi, cioè la pratica della conversazione che diventa universale, anche perché non ha più bisogno di essere frontale. No, anche perché ormai la società, insomma, viene meno il face to face, perché c'è una società europea comune, no? che ha lo stesso linguaggio, no? Che può... Sul punto poi che tu insisti della rottura epistemologica, sono in gran parte d'accordo su un punto, cioè che finisce il sapere enciclopedico, cioè che muore, insomma, nel corso del 600 finisce l'enciclopedia, secondo me, perché quella che noi chiamiamo quella che è stata poi anche la grande enciclopedia non è un dizionario, cioè è il passaggio alla fase in cui non c'è più il grande quadro generale universale, ma ci sono i linguaggi specializzati. E su questo sono d'accordo, su questo punto, sulla questione proprio della specializzazione dei linguaggi. Solo che ecco, la rottura epistemologica è un termine che anche già aver formulato in bachelor è sempre lasciato molto perplesso. Che fratture sono processi di lento assestamento, ma anche le fratture sulla crosta terrestre sono durate millenni. Per esempio, il processo di sviluppo delle matematiche viene proprio da un ambiente accademico, nelle università. Bologna fa eccezione. Bologna fa eccezione perché la matematica, invece, proprio perché Galileo ci è riuscito a buttarcela dentro. Stiamo dicendo 600, dopo diventa la più grossa scuola matematica. C'è l'esistenza però di una pratica in certe università italiane, specialmente a Pisa e anche però a Pavia, che ha qualche aspetto accademico, il circus. Il circus, che è un fenomeno abbastanza singolare, a Pisa presenta quando sviluppa delle parti, cioè in cui c'è già un atteggiamento accademico anche in gruppi dell'università, perché lì si discute. Attraverso questo processo, ma però dico lì direi che è l'influenza dell'Accademia che fa sentire sull'università, forse no? Il tipo della discussione, della conversazione che viene adottato anche all'interno, cioè in ambienti universitari, però è un fatto in qualche modo privato, là. Grazie. E allora Bentoni. Volevo così porre un requisito, se possibile, in questo mondo accademico che mi risulta sempre più ambiguo. Più si addentra, più prolifera, diventa una scatola cinese. E volevo sapere, così ad ingrosso, Repubblica di Eguali, tu hai detto, no? E però. All'ingrosso c'è anche lo statuto, che a mio avviso è un dato contante, perché se no l'ha ridotto Morosini, il fatto che mai l'ente lo contante, tra le accademie, dipende da mancata impostazione preliminare da l'ente, quello è un altro aspetto, il libero conversare. Quindi Repubblica dei Guardi con riproduzione, seppure morbida, della disuguaglianza. C'è l'antitesi della Corte, dell'Accademia, che si pone come oasi separata rispetto ai tanti anni della storia. Oppure Nimesi della Bologna, nello stesso in cui l'Accademia riproduce col suo principe, con tutta la sua gerarchia, con i suoi ambasciatori, il mondo veneziano. Civile conversazione oppure banalizzazione della conservazione. Per dire, un deferimento dei toni affabili, coloriali, poi neanche inventivi e creativi, più rituale in vente, in un irrigidimento composto, in una sorta di recita legata ai toni alti, che però spesso collimano con lo stesso. E io, tra i punti di riferimento poi di Agosti e Guazzo, da un lato direi che anche Guazzo è un asse importante dell'ideologia nobiliare, e quindi quindi l'eguaglianza è un aspetto così, un'eguaglianza di tipo unitario del circolo ristretto. Non so poi il senso che abbia la diffusione di Guazzo in Germania, come è stato recepito. C'è un libro di Bonfatti che non ho letto, che ho anche inglese studi, ma ecco, arrivo tra Amigues. E lo statuto è un dato connotante in quello che coglie l'Accademia nel suo momento alto, diciamo, numerico, Garuffi. Ma la testa Garuffi parla di statuto esplicitamente. Cioè, a un certo punto questa gente si riunisce, si dà le leggi e si dà gli statuti. E si dà l'impresa. E poi l'impresa diventa una grossa impresa di affabulazione. Per cui lo statuto non sarei meno propenso a vedere l'aspetto autolegislativo come indifferente. In realtà è un momento importante. E poi si danno da sé. Sì, si danno da sé, ma riproducono la diseguaglianza con le statute. Sì, ed è diseguaglianza, una cosa che funzioni ha per forza. Sì, ma il fatto che loro se gli eletto, può darsi che... è un problema che Pecorella riaffronterà certamente, perché aveva accennato anche lui a questa questione. Vale dire, ecco, immagini di funzionamento solo in termini di gerarchia. Come si può funzionare una cosa se dopo andiamo in ordine, scusate, altrimenti anche per chi deve poi riferire nell'altra lingua è impossibile. Un'ultima cosa, così ritornando all'effimero di ieri, cioè nel ventaglio semantico di ambiguo del termine accademia, ci sarebbe un'aggiunta da fare. Spesso, mi pare, nel 600-700 si parla di accademia di lettere e musica per una singola occasione, lauree. Quel caso vuol dire radunata, è radunata, adunanza, è un sinonimo di adunanza. Samlung. Ecco, però resta allora la valenza teatrale. Ecco. Dopo infatti anch'io volevo parlare, perché a questo punto c'è un discorso, solo distinguendo riusciamo ad arrivare veramente. C'è vecchio e nuovo insieme, non li possiamo trattare allo stesso modo. Professor Ghiberto. Nennenzweise her eine Bemerkung machen, zwar anknüpft vielleicht an die Definition von Tirabotti. Wie dieser Begriff Profil hat gewählt, der auch in der Gründungszeit ungefähr der Terminus äquivalent mit Universitas des Universitas Collegium ist. Ich glaube, man muss hier den Entwicklungsgang der Rechtsgeschichte sehen, denn es ist doch wohl so, dass eine mittelalterliche Korporation ipso facto die Anerkennung verschaffen konnte, einen öffentlich-rechtlich geschützten Status hatte, während diese Definition, die Rapport im Grunde nicht über das Private hinausgehen muss. In der Regel in der Blendungsakademie nicht über die private Sphäre hinausgehen. Die Gesetze, die sind ja auch keine Gesetze, die öffentlich-rechtliche Anerkennung finden, sondern sie haben nur Gültigkeit für die, die sich ihnen freiwillig im Inneren unterwerfen, aber sie können ohne Böden austreten. Ich glaube, hier könnte eventuell die Bevorzugung des Terminus Academia, der Vereinigung verbreitet ist in Italien, ein Versuch sein, eine terminologische Variante zu finden, nachdem so Zietas juristisch belegt ist. Ich erinnere mich, dass die Platonische Akademie in Florenz, die sich zunächst auch Familia Platonica nannte, es also scheint mir eine gewisse, möglicherweise eine gewisse Ausweichfunktion von der juristisch verrechtlichen Universitas, privilegierten Universitas, das befinden. Era una ripresa sempre dal punto di vista istituzionale e osservava in rapporto alla definizione del Tiraboschi che il termine societas compare anche nell'ambito delle università. Ma qui evidentemente bisogna anche tenere conto che la formula del Tiraboschi non prevede di andare di là dall'ambito privato e quindi si definiscono due aree diverse. Perché si dovrebbe anche dedurre che tutta una serie di questi termini hanno delle funzioni analogiche e sappiamo poi bene, questa è aggiunta mia, che l'analogia ha bisogno di essere commisurata ai contesti secondo avvicinamenti e allontanamenti. A questo punto c'era Natale. Ho trovato di estremo interesse questo elemento nell'unirsi a conversare come nucleo centrale dell'Accademia, del piacere della comunità e del riunirsi in salotto. Vorrei allora chiedere, è possibile vedere la prosecuzione ancora di un modello molto più antico rispetto a quello della conversazione scientifica moderna? Per intenderci, noi oggi facciamo delle conversazioni scientifiche utili, nel senso che devono portare all'accrescimento, diciamo, del campo del sapere. Questo era presente anche nel mondo antico, però era subordinato ad un altro scopo molto più importante, che era il raggiungimento della felicità. Il raggiungimento della felicità che si otteneva attraverso l'uso delle virtù dianoetiche, le quali sono quelle che fanno l'uomo distinto dagli altri del male. Allora, in queste conversazioni piacevoli, è possibile vedere anche il proseguimento di questo modello, che si ritrova, per esempio, nel simposio, nel decimo dell'Etica Nicomachea, nel concetto di Scolè, nella politica, eccetera. Quindi di un modello culturale molto antico. Certo. Schiera. Cioè non intendo assolutamente su queste cose, però ho delle continue provocazioni che mi costringono a, malvolentieri, insomma, chiedere delle cose. Quando purtroppo io sono andato tardi stamattina per lavoro, per arrivo dalla storia, forse probabilmente dirò delle cose, chiederò delle cose che sono improprie, incongrue per chi. Però devo dire che sono abbastanza tendenzialmente refrattario ad accettare che un fenomeno così importante come l'Accademia possa essere ricondotto, anche solo dal punto di vista genetico, al piacere di stare insieme. Io credo che la storia, soprattutto dal punto di vista della storia delle istituzioni, della storia del potere, della storia della legittimazione del potere, eccetera, eccetera, il piacere anche a ha avuto sempre un significato solo indiretto. Cioè, ammetto che possa essere anche stato piacevole per gli uomini del 400, del 500, riunirsi, perché chiara, però se il loro riunirsi è divenuto un fatto storicamente rilevante dal punto di vista sociale, significa che c'era qualcosa in più, oltre al loro personale piacere, che faceva sì che la Cagenia avesse il significato. E molta cosa che ha avuto, dove sta questo qualcosa in più. E qualche cosa di analogo a l'osservazione che mi pare facesse ieri Pasoli, quando diceva improvvisamente i uomini intellettuali esperti di diverse discipline si mettono a parlare tra loro. E allora io dubito molto che nei secoli precedenti costoro non parlassero tra loro. Mi pare impossibile che nei secoli precedenti geometri, medici, filosofi, eccetera, stessero zitti quando si incontravano per strada, non parlassero delle loro rispettive pari. Probabilmente ne parlavano, probabilmente ricavavano lo stesso piacere che poi avrebbero ricavato già nel Cinquecento. Solo che nei secoli precedenti tutto ciò era socialmente irrilevante. Invece dal Cinquecento in poi sembra che ciò diventi rilevante. Allora, Paolo Prodi ieri un intervento molto breve che ha fatto, ma che però è stato il primo mio passo ad aprire in modo problematico il rapporto tra nascita e fortuna dell'Accademia e processo di formazione dello Stato moderno, no? Ha appunto, però facendo questo, ha aperto una prospettiva interessante che infatti è stata subito ripresa. A me pare però che la prospettiva del collegamento Accademia e Stato moderno implica necessariamente l'apertura di una seconda prospettiva che è complementare a questa, ed è la prospettiva della società, del sociale. L'Accademia è un fenomeno, credo, che in quanto assume significato storico e ha una fortuna plurisecolare, attiene al sociale, cioè attiene al sociale così come attiene allo statale, cioè interviene in quella coppia concettuale che probabilmente è un fatto solo coreografico, cioè un modello, un ideale, vediamoci, che è il rapporto tra società civile che segna tutta quanta la storia moderna occidentale a partire da 500. Allora, da questo punto di vista, trovo, per esempio, non definitorio, chiamare, considerare l'Accademia un fatto privato. L'Accademia non è un fatto privato. L'Accademia è semmai un fatto sociale. Anche perché, con riferimento al 500, il discorso privato è un discorso estremamente ambiguo, in quanto noi, quando usiamo il concetto privato, chiaramente partiamo da una prospettiva che è la nostra, contemporanea, e ci distorce completamente. No, le chiamavano loro o privato o pubblico. È rilevante per me comunque una alla volta ricostruire ciò che loro termini che loro integrano. Detto questo, a me pare che allora, se è vero che il problema dell'Accademia può avere un significato storico compiuto riferito alla dinamica del sociale in corso nel momento in cui l'Accademia sorge, a mio avviso cade anche il discorso cui si possono fare le guerre di religione, le lotte di classe, eccetera, dell'uguaglianza e della non uguaglianza. Perché il problema dell'uguaglianza, dal punto di vista sociale, in termini di pratica politica, come in termini di legittimazione, quindi teorici, nel Cinquecento non esiste. Perché nel Cinquecento noi assistiamo alla formazione di ceti dirigenti nuove rispetto a quelli che c'erano prima, che sono alla ricerca di una loro legittimazione, la quale legittimazione si deve conquistare sul piano che ieri giustamente Pasoli definiva della divulgazione più che dell'approfondimento teorico, della socializzazione dell'opinione pubblica, eccetera, eccetera. Allora il discorso dell'Accademia, a mio avviso, non è né pratico né piacere. L'uguaglianza è riferita ai nuovi centri di informazione, per ragioni che sono di tipo modi di legittimazione che non c'è ricerca. Probabilmente le accademie sono uno di questi modi. Chiudo, scusate, un ambito però, no, per chiudere, concludendo, cioè, se è vera questa lì, banalissimo peraltro, ipotesi di lavoro, allora forse si comprende anche meglio come si sviluppa poi questa roba, questo genere, questo seme che era cadetto nel corso del 600 e nel corso del 700. Perché se poi si ferma, la legislazione del conflitto muta il rapporto che i centri hanno rispetto a un potere, lo Stato di due secoli acquista una dimensione enorme. E nel 700, per forza che poi si va ai giornali e a catena non serve più, perché i termini di legittimazione di cui hanno bisogno i centri di 700 sono completamente diversi da quelli del 500, perché nel 700 c'è il pubblico che nel 500. C'era Vasoni e poi il professor Galco, c'è anche Raimondi. Quello che ha detto si è, su cui sono d'accordo su molte cose. Per esempio, il fatto che si discutesse anche prima dell'Accademia. Certamente, noi dai racconti che abbiamo partito degli alberghi, c'è medici, ci sono giuristi, ci sono, che si incontrano e discutono. Però appunto manca veramente la rilevanza che l'Accademia. Il secondo punto su cui... La questione dell'uguaglianza e disuguaglianza non è tanto una questione di uguaglianza e disuguaglianza, quanto è una questione di sospensione dei ruoli sociali tradizionali. Per cui il nobile, per esempio, sta col borghese, sta con l'universitario in certi casi, cioè è un, veramente i ruoli sociali non ci sono più, sono cambiati, sono altri ruoli. Si fa finta che non ci sia. Si fa finta che non ci sia. È suspension of belief. E in questo senso le accademie hanno una stranissima somiglianza. È fantastico. Sulla struttura che poi avranno le logge massoniche, dove anche lì si sospendono i ruoli comuni, il nobile magari non è, il gran maestro è un borghese, non è il maestro della loggia è un borghese, l'oratore è un borghese, e c'è il nobile, eccetera. E c'è questo aspetto che andrebbe tenuto in considerazione, per esempio, la forte vicinanza di certi tipi di struttura accademica poi con le istituzioni massoniche, con le strutture della massoneria. C'era... un momento no, io vorrei che e se... poi professor Gatti. No, volevo dire una cosa sulla questione del riconoscimento dei nuovi ceti che avviene veramente. Qui l'Accademia è una delle vie, qui citavo ieri proprio il caso del, mi pareva tipico, del Patrizzi, cioè di un uomo che è in fondo un autodidatta per l'altra parte, che non ha una carriera accademica e che però alla fine diventa di università, anzi dell'università di Roma, certo. No, se mi consentite io interverrei un attimo, siccome la complessità delle questioni poi credo di non farcela più a starci dentro con la testa, mi pare che l'insieme punti poi sul meccanismo che vi avevo proposto, anche procedurale per affrontare questo insieme. La domanda che io ho posto a questo insieme e che vi proponevo è se questo insieme va preso caso per caso o se di questi 3.000 eventi esistono dei livelli minimi di omogeneità, che è credo un procedimento che in campo storiografico è ormai ampiamente diffuso, no? Quindi al di là di qualsiasi, non voglio proporvi considerazioni metodologiche veramente oziose. Allora, il discorso sulla civile conversazione, sull'elemento anche piacevole di questa civile conversazione, non c'è da scandalizzarsi per niente, perché si può partire da questo che è il grado zero. Anzi, il grado zero lo abbasserei ancora di più, sono le accademie proprio effimere, quelle che durano un pomeriggio o una notte, in cui faceva riferimento Benzoni, perché è importante il fatto che vogliano chiamarsi accademia, e non in un altro modo. Questo è il dato importante. Riconoscono proprio questo grado zero elementare, che è il conversare, civilmente, quindi con tutto ciò che esso dà. Che poi da questo grado zero si proceda per elementi di complicazione istituzionale, con tutto ciò che questo porta. Quindi per elementi di complessità strutturale all'interno dell'Accademia e dall'interno con l'esterno, fino ai rapporti con lo Stato, con i processi storici, sociali, eccetera. Questo è ovvio, ci mancherebbe altro. Io dico, partiamo dal grado zero, individuiamo quella che è la spinta, insomma, la curiosità mia di capire perché mai a Poggi Bonzi mettiamo un medico, un uomo di legge, un notaio, il farmacista e il prete, si dicono, ci troviamo insieme a parlare di cosa? A me interessa questa domanda, come domanda di partenza, la spinta. Allora, è chiaro che rispondiamo a questa domanda se riconosciamo che è in atto un processo lento, complicato, la frattura non è un terremoto, una frattura lunga, che è un processo di omologazione culturale, del fatto che da Agrigento fino a Trento i meccanismi procedono verso un funzionamento sempre più omogeneo. Accanto a questo ci sono poi, ovvio, tutti i meccanismi di più complesse articolazioni. Certo che è socialmente rilevante riunirsi, costituire un'accademia, che è questo il dato che conta, ma è socialmente rilevante anche per il medico, il farmacista, il prete di Poggi Bonzi che si riuniscono, anche se a quel punto, a quel livello così basso, diciamo protozoico, elementare, biologico, ambito di batterio, va bene, della vita animale, dico, a quel livello lì i nessi istituzionali, statuali, di ceto, eccetera, risultano irrilevanti o marginali, ma all'interno della forma accademia questa è una componente fondamentale. Certo che l'accademia non è privata, assolutamente non è privata, ma dico, il riunirsi in casa di qualcuno viene visto, considerato, viene vissuto come un privato che si apre e si chiude allo stesso tempo. Quindi, dico, ci sono tutti questi elementi che rendono il fenomeno estremamente complesso, con un'articolazione ed una differenziazione che a mio avviso può essere colta e descritta a partire però dal riconoscimento del dato di omogeneità. Se noi non individuiamo quello che è il minimo, il grado zero, la spinta elementare, la domanda proprio fisiologica, direi, del riunirsi, noi non riusciamo a capire poi i livelli più alti. E l'esempio che vi davo, Accademia di Medina Celi, è proprio nel senso proprio di questo qui, nuovi ceti, nuovo stato, problemi, dico, ma è il livello alto, di alto, uno dei livelli più complessi cui forse l'istituzione accademia è giunta in Italia. E non a caso, volevo chiudere con quello e alcuni elementi bozzati. Per quanto riguarda i problemi di Benzoni, io non è che ami le accademie. Benzoni chiaramente non le ama. Lo chiameremo l'accademico affannato. Sento gli affanni. Dico, il meccanismo non mi pare risolvibile in termini di contrapposizione, no? Cioè è conversazione civile o è banalizzazione di conversazione civile, è un'oasi separata, mimetica, perché a me non interessano tanto elementi così di valutazione astratta a partire poi da cosa, perché tutto sommato noi qui pensiamo in questo momento di essere nel cuore o nel nucleo, cuore o nucleo, di uno dei momenti intellettuali più intensi del XX secolo, di questo anno 80. Probabilmente chi sta sotto a Trento ci considera come della gente, cioè, che qui in un'oasi separata sta banalizzando delle questioni. Dal punto di vista. Quindi è la questione del punto di vista. Teniamo conto dei punti di vista. Allora, i meccanismi accademici, il fatto ad esempio che ci sia il travestimento della Repubblica, io questo l'ho osservato sull'esemplare che citavo come l'unica vera grande accademia nazionale che abbiamo avuto, di fatto, l'Arcadia. Dove lì il meccanismo è mostruoso, ma dico, è un meccanismo di scena, di simulazione. Quindi dico, questi si travestono, cambiano nome, inventano l'Arcadia, il Bosco Parrasio, i Pastorelli, eccetera, ma in realtà, dico, non è altro che la riproduzione trascritta altrove in termini di scena dell'organizzazione della Chiesa Cattolica. C'è il Papa, ci sono i vescovi. Era quel modello. Quindi il meccanismo è lo stesso, quindi benissimo tutto. Scusa, Gali. Professor Gali. No, cioè, dass man im Gebiet nördlich der Alpen zur solchen Akademie eigentlich Vereine sagen würde. Da muss ich sagen, solche Vereine gibt es bei uns. Es gibt auch dort den Brette und den Pharmazeuten und den Schullehrer. Aber er beschäftigt sich mit einem einheitlichen Thema. Der Verein heißt für die Geschichte des Regenkreises. Das freut den Kollegen sicher nicht. Und nun sitzen dort wirklich verschiedene Menschen und beschäftigen sich mit der Geschichte der Stadt Regensburg und ihrer Umgebung. Das ist so die eine Frage. Ist das ein Verein eigentlich? Die zweite Frage ist, gibt es eigentlich in Deutschland oder in der Bundesrepublik jetzt präziser, beziehungsweise in Italien, Gesetze, die bei Neugründungen irgendwelcher wissenschaftlicher Institutionen gewisse Terminitechnici schützen? Kann sich jemand, der einen Verein gründet, Akademie nennen bei den Italien, ohne Anspruch zu regen bei der Vereinsbehörde? Ich darf gleich dazu sagen, in Österreich kann man das nicht. In Österreich kann man sich nicht Professor nennen, man kann sich nicht Universität nennen, man kann sich nicht Akademie nennen. Das sind die drei Dinge, auf die die Polizei reagiert. Danke. No, scusi, rapidamente. Primo, dice, pensando all'esperienza austriaca, si possono riunire i farmacisti, si possono riuscire i maestri di scuola, eccetera, eccetera. Queste sono accademie. Poi, seconda domanda intrecciata, in una certa tradizione non ci si può dare certi titoli così a caso. Esistono dei termini tecnici negli statuti delle accademie italiane che precisano meglio questa situazione anche in rapporto al quesito che nasce dall'esperienza, per esempio, austriaca. E qui c'era un'aggiunta ancora. Es gab immer zwei Worte, die Italien gibt, und man fragt sich doch, und die Frage geht, glaube ich, vor allem in deutschen Politik, gibt es nur etwas Ähnliches in Deutschland? Natürlich, es heißt nicht Akademien, aber gibt es eigentlich in 15, 16, 17 Jahren? C'è qualche cosa anche, un momento, perché ci sono tante mani, le mani purtroppo ci portano nel clima protozoico di cui parlava Quondam, cioè io non riesco ad avere i nomi, quindi almeno che li riesca a definire, così c'è una richiesta là, una richiesta qua, dei capitani che ho riconosciuto, e in questo momento c'è la professoressa Böhm, poi c'era la domanda, nel mondo tedesco si possono porre problemi simili a quelli che aveva proposto il professor Gall? Quindi, darf ich noch ganz kurz sagen? Meine Frage ist, ich glaube, dass es im Vergleich, weil es nicht gibt und dass man ein Phänomen mit einbeziehen muss, was ja in Italien, fehlt, nämlich die Reformation. Wir stehen ja vor der Tatsache, dass in Deutschland seit 1520 viel für ein Jahrhundert viele Kräfte vollständig von der theologischen Diskussion und ihren Weiterungen und ihren Folgerungen auch politischen, gesellschaftlichen und geistigen aufgesogen wird, auch mit dem Lehrstuhl, und zwar überragend, sodass die Frage stellen möchte, ob das auch damit zusammenhängt, dass hier für ein Jahrhundert die Auseinandersetzung, die vorhin begonnen war, zurückgedrängt wird durch die Reformation. Problema della riforma, il problema delle forze concentrate sopra le discussioni teologiche, concentrazione in quella parte, ha un peso nel differenziare certi modelli. C'era la professoressa Böhm, poi c'era la signorina, poi c'è una mano laggiù che diventerà un volto, poi c'è anche Capitani. Mazzocchi, Maccagni, che conosco, ma io avevo visto soltanto, chiedo scusa. Eine kurze Feststellung. Sie haben betont die Komplexität nach innen in der Struktur und den langsamen Prozess einer kulturellen Integration und einer Angleichung, einer gegenseitigen Angleichung all dieser Institutionen oder Kreise oder Zirkel. Das ist ein bestimmt sicherlich ein historisches Phänomen, was man überall beobachten kann. Meine Feststellung oder Frage ist nicht wenn man hier dieses Werk sieht, die 5 Bände von Michele Mailänder, wenn wir diskutieren über die Typologie bestimmter Formen wissenschaftlicher Diskussion, ist es nicht auch eine Frage der Registrierung, eine Frage der Historiographie, eine Frage der Edition? Die Frage, welche kleinsten Zirkel Mailänder registriert und in ein Handbuch zusammenfasst. Ich bin überzeugt, dass wir auch für den deutschen Raum oder für den französischen Raum, wenn es einen Historiker gibt oder einen Handbuch, einen Sammler, der kleinste Phänomene in ein Handbuch hineinsetzt. So verschwindet der Unterschied. Ja, so verschwindet der Unterschied. Und das ist ein, das sollte man immer die Forschungslage und vor allem die Methode der Registrierung mit bedenken. Haben wir zum Beispiel für den deutschen Raum. Bitte? Das heißt nur Geschichte des Vereins. Eben. La domanda era questa. Si accerta la complessità, hai accertato ulteriormente la complessità della struttura, il lento processo che si svolge, una specie di omologazione e così via, è un fenomeno storico che va riconosciuto e di cui si trovano i termini anche al di fuori di questa particolare circostanza nella realtà extra-italiana. La domanda però diventa questa. Non siamo a questo punto a un problema di registrazione, per così dire. In altre parole, se anche in altre tradizioni culturali si va alla ricerca di tutte le unità, anche minime, come ha proceduto Mailänder, allora probabilmente scompare la differenza ed esistono dei grossi repertori anche altrove. La domanda verte su questo. Quali sono le unità minime sulle quali ha lavorato il Mailänder che invece non sono state tenute presenti o possono essere tenute presenti in situazioni come quella francese o quella dei paesi di lingua tedesca? Beh, tu, no. Adesso c'era... contributo alla individuazione della... dei caratteri che distinguono l'Accademia Scientifica dalle Accademie precedenti. Intanto, parlare dell'abbandono della forma accademica, direi di scoprire la trasformazione. Mi sembra che si verifichi un cambiamento di modelli. Non più i modelli a cui tendono sempre più a informarsi nelle accademie scientifiche, o presente quelle della seconda metà del Seicento, dagli Cimenti in avanti, sono sempre meno le accademie cinquecentesche italiane, sempre di più la Royal Society e l'Accademia di Sia, sono due versioni proprio di organizzazione della nuova scienza a livello europeo. Credo comunque il modello che in questi giorni poi è venuto trattato in modo piuttosto preciso dell'Accademia, basato, come diceva Martina Fonda, fondamentalmente sul diario di regia e conversazione, non poteva non andare stretta ad un tipo di sapere, ad un tipo di cultura che fa dell'appello all'esperienza l'elemento fondamentale. Cioè, io credo che la forma di società, il momento collaborativo che qui manca delle altre accademie possa rimanga senz'altro come una, un strato che non cambia, però l'esperienza e l'esperimento introducono proprio un modo di organizzazione, direi anche, delle esigenze di scambio, delle esigenze di diffusione delle informazioni che è fondamentalmente diverso. Io credo che il modello che con tutti i cambiamenti esperimenti che ci possono essere appunto nelle varie accademie che si ispirano o alla scienza cartesiana o a quella bacconiana, sia però fondamentalmente il modello bacconiano, che cioè quello che mi sembra Rossi ha definito come un ideale democratico, collaborativo, e quindi potremmo anche esserci, progressivo e anche internazionale pubblico fondamentale e internazionale della scienza. Un carattere pubblico, ad esempio, mi sembra che non sia sempre presente nelle altre accademie, mentre nella accademia scientifica è un requisito indispensabile. Il carattere progressivo, cioè le accademie si riuniscono per assistere all'ostensione di esperimenti allo scopo appunto di verificare, ma in modo oggettivo, come verifica appunto dell'esperimento, le teorie di cui sono informate attraverso i giornali, attraverso i circuiti epistolari, no? Appunto Oldenburg, Maria Betti e altri. Quindi il momento della riunione accademica non è soltanto, non si limita appunto alla conversazione, allo scambio, è un momento che si pone, chiaramente perché questo non avviene sempre, si pone come un momento anche di aumento del sapere, di progresso, cioè di crescita appunto di questo patrimonio letterario comune di cui parlava Bacone. Ecco, poi questo può essere un elemento, dovrebbe probabilmente ancora molto di più articolato. L'altro elemento, evidentemente, è proprio il fatto che gli oggetti delle conversazioni, gli oggetti delle discussioni sono scoperti, sono i tecnici. Quindi c'è l'interesse che da un lato il potere politico, dall'altro ceti mercantili, industriali, produttivi, come in Inghilterra ad esempio, possono avere per questo tipo di accademie, è indubbiamente molto diverso da quello devono avere per accademie magistrali e anche mi sembra per un'accademia come di Maceri, che rimane sempre legata a interessi di tipo politico, di scienza politica, di rinnovamento, certo di questo. Quindi i modi poi con queste accademie, quelli ovviamente che non rimangono accademie private, ma che si istituzionalizzano, sono abbastanza diversi. E a me sembra che io ero molto presente all'Istituto delle Scienze di Bologna e la Facoltà delle Scienze che ho messa. Mi sembra che la tendenza sia poi a cucire il legame con l'università. Cioè, l'Accademia si presenta normalmente come in contrapposizione all'università, dove perdurano i programmi scolastici, i programmi tentativi. Molti degli accademici del Gruppo non sono pure accademici che vanno d'accordo anatomico, antichi, soprattutto di medici, no? L'Accademia della Frazza, dell'Arcidiacono e una serie di altri, tutte le filosofie sperimentali, tutte nel periodo tra il 1660 e il 1700. Molti dei partecipanti, dei membri di questa accademia sono professori universitari, altri sono giovani patrizi, sono dilettanti amatori. Virtuosi. Si costruiscono anche fuori dell'università. Intorno alle libere lezioni in casa di alcuni dei professori universitari, ma nell'impossibilità di una trasformazione dell'università. Cioè l'obiettivo rimane sempre la riforma dell'università. Anche l'Istituto delle Scienze nasce a complemento dell'università, l'impossibilità di riformare all'interno dell'università, di introdurre la fisica sperimentale, la geografia, la nautica, tutta una serie di le matematiche vecchie, non soltanto la. Ha portato alla necessità, ha fatto scegliere a Marsili e al Senato dovrebbe distinguere qual è, di individuare qual è la istituzione che ha spinto più a fondo questa realizzazione, appunto costituire un istituto autonomo che però ha una funzione complementare rispetto all'università. Quindi in qualche modo mi sembra che la tendenza ci sia una tendenza molto di più all'istituzionalizzazione di quanto non ci sia nelle altre accademie, proprio perché si tratta di garantire poi a quel punto non più soltanto la produzione del sapere scientifico, tecnico nuovo, ma anche la trasmissione, l'insegnamento. Quindi, cioè, siccome queste accademie hanno delle caratteristiche che si pongono quasi tutte come quelle che conosco sempre, anche come momenti, cioè come un momento didattico molto, molto accentuato, per esempio che l'Accademia della Trazza, che è quella fondata da Montanari, ha questa caratteristica molto, molto precisa, no? C'è proprio una struttura parallela, privata, semi-privata, rispetto all'università. Maccagni. Eh sì, forse è bene che venga avanti. La prima è semplicemente così, un'informazione sul programma e riguarda il rilievo giustissimo della professoressa San Giorgi, e io domani mattina cercherò malamente, nel limite delle mie possibilità, di far vedere come ci siano delle istituzioni che forse non si sono chiamate accademie, ma spesso sono state abbinate alle accademie, hanno avuto rapporti che costituiscono dei centri, soprattutto per quanto riguarda le scienze naturalistiche, e che sono poi orti botanici, musei naturalistici simili. I discorsi di stamane mi hanno sollevato una serie di considerazioni invece di altro genere. Anzitutto che direi nella tradizione anche letterario, ma soprattutto direi nella tradizione filosofica e nella tradizione scientifica, la discussione o il dialogo a una, due, tre, quattro, cinque voci sono vivissime e ci sono sempre state. Quindi, casomai, il riunirsi appositamente per discutere è il consacrare una distinzione, una tradizione che è stata anche universitaria. Questioni disputate del Medioevo, tanto per non erano appunto metodi diversi, però c'era la riunione per discutere attorno a un argomento, vabbè, attendevo bene, è un'altra questione. Queste dispute, d'altronde, sono anche vivissime in altri periodi. Non per nulla, direi, fra la fine del 5 e l'inizio del 6, comincia a prodursi tutta una trattatistica in forma di dialogo. Citiamo soltanto Galileo, tanto direi che ciò che rende soprattutto interessante e importante questo aspetto della comunicazione è la diffusione della stampa, cioè in sostanza quell'altra forma di diffusione privata che sono le lettere non si sottrae all'utilizzazione della stampa. Noi nel Cinquecento vediamo che si cominciano a pubblicare le lettere, ma non soltanto le lettere come raccolte di modelli letterari, e su questo vorrei insistere, ma proprio di lettere che trattano particolari quesiti. Il Diversano Speculazione Matematicano e Fisicano Libri di Giovanni Battista Benedetti, che è altro così, per metà sono lettere che rispondono a precisi quesiti e che sono anche circolate. Il Papa, quando ha deciso di fare la riforma del calendario nel 1577, ha fatto una circolare, che forse è la lettera che è girata di più, con la proposta di riforma del calendario sollecitando il parere dei matematici. Nell'Archivio Vaticano ci sono alcuni chili di, oltretutto, una pubblicistica, e poi le risposte sono andate per l'estate, di risposte in questo senso. La disputa stessa, non soltanto come dialogo istruttivo e fatto ad hoc, ma come reportazio di qualche cosa che è effettivamente avvenuto, va per le stampe. Tartaglia, quesiti di dimensioni diverse, ci sono le dispute su vari argomenti di carattere scientifico e non sempre con un solo interlocutore, perché interlocutori sono anche più di uno. L'altra questione è che una cosa che non è mai venuta fuori quando noi parliamo della struttura dell'Accademia, ma sulla quale forse avremo giovedì una reportata con un'altra di ogni, è l'aggancio tra quello che è l'aspetto delle congregazioni religiose, chiamiamolo così, e quello delle accademie. Lo stesso cambiar nome, direi che sia una tradizione tipica di questa istituzione, di queste istituzioni caratteristiche, che è, quindi ha un suo preciso aggancio. Che cosa significhi rifarsi a questo modello? Ecco, forse è più difficile riuscire a capirlo, certo, e coglierlo. Che comunque un qualche riferimento possa esserci a questa tradizione, mi pare però altrettanto indubbio. Direi poi che quando noi arriviamo in regime controriformistico, con la proliferazione di congregazioni di laici, cose che già c'erano prima, ma che si rinforzano notevolmente, su, direi, temi specifici. Perché le congregazioni, diciamo, pre-riformate, sono di solito congregazioni che hanno degli scopi, come dire, quasi umanitari, cioè è il precetto evangelico dell'amare il prossimo che si estrinseca attraverso forme organizzative. Quando arriviamo invece a certe forme, qui io vado per la cosa che non so quasi niente, dove la congregazione si fa una specie di liturgia sua, c'è tutta un'organizzazione specifica su di un certo settore. Ecco, io vedo proprio uno specializzarsi anche nel settore religioso di queste forme organizzative. Quindi questo suddividersi, questo frammentarsi, questo precisare gli interessi diventa un elemento caratterizzante di tutto il sociale del periodo. L'altro problema che io vorrei così porre semplicemente, perché anche di questo non so nulla, ma sarei curioso e forse il professor Raimondi ci può dire qualcosa di più, è il diverso uso del volgare e del latino nelle accademie. Parlo soprattutto di questioni scientifiche. È chiaro che un'accademia probabilmente letteraria fa meno ricorso al latino, usa di più le lingue locali, eccetera. Però nell'ambito della trattatistica scientifica vediamo che c'è una diffusione notevolissima nel secondo Cinquecento, per esempio, dell'italiano a livello internazionale, che scompare quando noi arriviamo al Seicento. Una delle ragioni che, così interne, verso le quali io mi orienterei, ma è tutto da verificare, è il fatto che tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, che tutto decade la cultura italiana, questo è un dato di fatto, ma l'altro dato di fatto è che nella comunità internazionale si vanno formando, e dico formando cioè anche come linguaggio, non solo a livello concettuale, anche delle discipline completamente nuove. Stessa matematica si trasforma profondamente, la meccanica si trasforma profondamente e così via. Per cui c'è sotto questo aspetto la formazione di un linguaggio comune che non può più essere preso attraverso quella tradizione dotta o semidotta, e qui ci sarebbe tutto il linguaggio delle tecniche, che sarebbe interessantissimo inserire in una visione di questo genere, ma non attacco il bottone, e che quindi non è più sufficiente per esprimere i concetti nuovi. La lingua che si forma è una lingua esemplata completamente, che utilizza quasi esclusivamente il latino. De Capitani. Capitani per di sé. Möchte zwei Fragen stellen. Die erste, bei diesen ganzen Riesenzahlen Akademien, die etwa überall verteilen, kann man geografische Schwerpunkte feststellen, verändern sich diese geografischen Schwerpunkte. Ja. Das ist nämlich etwas, ja, was man in Frankreich, ja, und in Deutschland feststellen kann bei solchen Bewegungen. Ja. Das zweite, wenn wir diese Akademien quasi als Katalysatoren der Kommunikation verstehen, also als eigengesetzliche Form dieser Kommunikation, die Freiräume schafft, dann kann man sicher davon ausgehen, dass es auch im nördlich der Alpen solche gegeben hat. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Frage der vorhandenen Quellen, ob man so viele findet, sondern eine Frage der Chronologie, wann man sie findet. Wir haben in Italien im 16., 17. Jahrhundert Phänomene, die wir im Frankreich oder Deutschland erst im 17., 18. Jahrhundert in dieser Menge finden. Und hier kommen wir dann in die Vereinsgeschichte, die Geschichte all dieser Sozietäten, die man dann auch quantitativ fassen kann und gerade sehen, wo eigentlich die große Welle einsetzt, mit ziemlicher Genauigkeit. Weil dort hat man dann die Quellen. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Quellenausfall für Deutschland im 16., 17. Jahrhundert, sondern es ist effektiv eine Bewegung, die später einsetzt. Le due domande sono: preso atto delle 2000 e più accademie, si chiede se geograficamente non si possano determinare dei centri di gravità. Secondo, tento conto di questa presentazione delle accademie come catalizzatrici della comunicazione, che determinano degli spazi liberi, il problema è in rapporto a ciò che avviene in Francia e nei paesi di lingua tedesca, se questo fatto si osserva che i fenomeni che in Italia si danno fra il 500 e il 600 si presentano invece altrove fra il 6 e il 700. Allora anche il problema è un problema di cronologia e insieme con il problema della cronologia di queste ondate di movimenti che si distribuiscono in tempi anche diversi. Adesso darei per un momento, prego, allora poi parlo. No, è giusto. Io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Fonda sulle accademie generali. Probabilmente lo sarei anche su quello che avrebbe eventualmente detto sulle accademie scientifiche. Forte! Adagio e forte! Lo sarei forse anche su quello che lui avrebbe detto sulle accademie scientifiche, se effettivamente avesse affrontato anche questo argomento, che però mi pare che, tenuto conto dell'assunto di questa sua relazione, ha soltanto sfiorato. Io vorrei che entrasse in merito, possibilmente in maniera un po' più incisiva, tenendo presenti alcuni problemi, alcune questioni, alcuni suggerimenti. Cioè, l'Accademia Scientifica è tale perché la definiamo noi nella nostra prospettiva storiografica, è tale perché sono i suoi membri che si autodefiniscono membri in un consesso scientifico, è scientifica in base al metodo, è scientifica in base agli strumenti adoperati, è scientifica in base agli obiettivi che si propone, poi ai risultati raggiunti, è scientifica in maniera negativa, cioè è scientifica l'accademia che non è letteraria, perché allora da questo punto di vista può essere scientifica l'accademia del disegno, data da Vasari negli anni 60, possono essere scientifiche le accademie agricole lombarde, toscane e venete del secondo Settecento, oppure si distingue per un impianto concettuale unico, univoco, diverso da quelle di tutte le altre accademie, che fa naturalmente riferimento alle esperienze culturali che sono quelle galileiane, che sono quelle di Napoleone, che sono quelle, quelle appunto dell'Accademia delle Scienze parigina e quella della Royal Society inglese. Ecco, questo complesso di problemi che si intersecano con l'altro, dà luogo a una definizione univoca, esiste una vera e propria tipologia, o l'Accademia Scientifica si connota in maniera abbastanza, diciamo, elementare, e bisogna andare eventualmente all'Ottocento. Poi un'altra cosa, io non sarei molto d'accordo sull'incompatibilità che è stata affermata, ma probabilmente non dimostrata, tra Accademia e Ricerca Scientifica. Io vedo piuttosto, mi pareva che fosse questo un'affermazione di Condon. Mi pare che, casomai, l'opposizione sia più tra Accademie letterarie e Accademie Scientifiche. Tenuto conto però che la vera ricerca scientifica mi pare avvenga più dentro l'università che dentro l'accademia, e questo è vero soprattutto in area veneta. La ricerca di carattere medico, per esempio, avviene dentro l'università di Padova, non avviene mai al di fuori, e non esistono vere e proprie accademie scientifiche, che perlomeno si rifacciano appunto una tradizione che ormai è già galileiana, al di fuori del secondo Seicento, e allora bisogna fare i nomi dell'Accademia in Corrara, di cui però è anima una persona che viene fuori dall'ambiente veneziano, che è Montanari, o dell'Accademia Sorostiana, che è stata rapidamente chiusa per motivi di grado, probabilmente di ragioni di stato, politici, della Repubblica Veneta. Anch'io volevo fare alcune osservazioni, dicendo che era opportuno, perché viene incontro a tante richieste, che venivano dalle relazioni e dalle controrelazioni, era opportuno come ha fatto Quondam, introdurre anche un argomento, diciamo, tra antropologico e sociale, chiedendosi quindi che cosa sono le accademie per chi sta dentro, ma che cosa sono le accademie anche per chi sta fuori, cioè che cosa significa vivere in un caso fuori dell'accademia e poi essere accademico. È un tipico problema di ruoli, per il quale credo si deve assumere veramente il criterio sociologico dell'analisi del ruolo, che vuol dire necessariamente processi di teatralizzazione, che non hanno né un positivo né un negativo in sé, lo hanno nel contesto e nelle funzioni che esercitano. Analisi come quelle di Goffman e di altri sono, a mio avviso, da questo punto di vista assolutamente necessarie. Vorrei ricordare, se non profitto troppo del tempo di chi mi ascolta, che quella Yolles, autore delle Forme Semplici, un libro sicuramente di grande importanza perché pone dei problemi antropologici dentro le forme letterarie, tentò una volta anche una tipologia della letteratura che potrebbe servire al problema delle accademie, le cui imprese implicano sicuramente un'analisi antropologico-figurativa. Yolles cercò di mostrare che l'operazione letteraria, dopo Nietzsche sappiamo che anche la vita può essere estetizzata in diversi tempi, ma del resto Huizinga lo aveva già detto, che tentò una tipologia delle forme letterarie dove la letteratura è un volto che si aggiunge al volto normale. È una specie di maschera che dilata il ruolo che noi normalmente gestiamo. Non citava Ortega y Gasset, ma Ortega y Gasset avrebbe potuto aggiungere: l'uomo desidera sempre essere altro. E qui trovava che nasce il teatro. E faceva una distinzione che forse viene incontro anche ai problemi che suscitava giustamente Maccagni, ai problemi del nome della Renovatio, dicendo che vi sono due grandi possibilità nel gioco della maschera o del volto con cui noi diventiamo di più di quello che siamo. Distingueva da una parte il momento mistico-religioso e dall'altra il momento letterario, osservando che il momento mistico-religioso non è reversibile, per definizione. Da A divento B, ma B è la vera conclusione di A. Nella letteratura, invece, diceva, si è A e B. E quali sono le possibilità B? Definiva alcuni grandi tipi, e qui si entra nell'accademia, perché i tre tipi erano determinati dal rapporto con la vita normale e dal rapporto o di sublimazione o di ampliamento laterale o di trasgressione della vita normale. E i tre figure erano l'eroe, il pastore e il picaro. Non c'è dubbio che il picaro non c'entra, se non nel caso delle figure delle sette che quindi comunicano solo fra di loro. Può darsi che vi siano volti, momenti accademici che hanno anche questo modo, ma certo si presta nei primi due casi. E qui è evidente che se tutto questo lo possiamo chiamare, anche perché lo potremmo chiamare così, funzione di evasione, le accademie entrano in un certo rituale, fanno parte dei grandi rituali di una esistenza che da un certo momento in poi ha preso piede in modi diversi, secondo anche il crescere di certe consuetudini e le disposizioni alla teatralizzazione quotidiana. Nella mitologia straniera gli italiani sono sempre stati considerati degli iperteatralizzanti. È un'analisi che fa parte anche dei pregiudizi, eccetera. Certo, non possiamo non analizzare nel suo insieme il fenomeno accademico fuori di questo, di un sistema sociale e della ritualizzazione che esso comporta. Se con questa ritualizzazione siamo d'accordo, lo troveremo un positivo. Quanto più siamo lontani da quella ritualizzazione di cui troviamo ancora gli effetti oggi, tanto più è un fenomeno negativo. In ogni caso, come processo di ritualizzazione, ripetizione di modelli, storia di mode, di processi di eleganza, di comportamenti, il fenomeno va studiato come globalità, e come globalità dà luogo poi a tutta una serie di valutazioni nelle quali probabilmente quanto più lo storico sente in quello qualche cosa di oggi, tanto più deve reagire in modi energici. Poi dentro questo fenomeno, che sicuramente va analizzato momento per momento nel modificarsi di certe funzioni, occorre vedere che cosa può essere ancora l'Accademia, che è una riforma di secondo grado rispetto a questa possibilità. E se storia è storia del positivo, io non credo che sia solo questa, è storia anche di ciò che poteva essere e non è stato. Se storia è del positivo, dobbiamo poi anche esaminare questi momenti diversi per non ricondurli al resto rispetto a cui invece sono qualche cosa di fortemente innovativo, magari poi non riuscendoci, perché i grandi modelli di ritualizzazione possono sommergere i modelli minoritari che vogliono modificare una ritualizzazione o usarla di nuovo nella sua forma profondamente etimologica. Non è un caso, l'ordine dei Lincei fallisce, non c'è dubbio, per una serie di circostanze, che tuttavia resti, a mio avviso, uno dei più grandi episodi nella storia della cultura del Seicento, è fuori di dubbio, perché mostra a un grado tipico di autoconsapevolezza quali erano gli scontri e le forze in gioco. Nella ritualizzazione c'è tutto il problema della conversazione. Qui dovremmo cominciare a fare le analisi dei grandi topoi, non dico con Curtius, ma almeno con Blumenberg, cioè cominciando a vedere questi grandi nodi verbali intorno ai quali si organizzano sistemi concettuali. Anche qui solo le contestualizzazioni ci permettono a livello storico di stabilire che cos'è la conversazione, poiché conversazione è una formalità, è una modalità, ma sono le res a questo punto, che cui corrispondono i verba, che definiscono a volta il valore delle conversazioni. Ci sono conversazioni che ritornano su se stesse e ci sono conversazioni invece che tentano di aprire il circolo e andare in un'altra direzione. Intanto si potrebbe, per esempio, come ipotesi di lavoro ai livelli bassi, dire nell'area italiana la Accademia è, come è stato detto, uno spazio libero, uno spazio sospeso, uno spazio dove in parte si riproducono i modelli, ma in parte si sospendono con tutte le ambiguità che a questo punto non possono non nascere. Sono luoghi di incontro. Esistono nel Seicento delle accademie che io chiamerei miste, quella dei Gelati a Bologna è tipica, dove vecchie logiche e nuove logiche si incontrano, ma non rompono fra di loro. Dialogano con fenomeni poi estremamente complessi e largamente intrecciati, perché lo scienziato che parla in quell'accademia parla di problemi scientifici, ma assume anche un certo rituale, perché vuole passare dall'altra parte. Montanari, quando parla dentro certe aree, usa un linguaggio in parte diverso, perché, e qui viene un altro problema, perché è vero che nascono diversi linguaggi, ma non è ancora vero che c'è l'idea della non comunicabilità dei diversi linguaggi. I diversi linguaggi prevedono ancora, negli scienziati è più forte che in altri, che vi sia una retorica di comunicazione. Galileo sceglie il dialogo e Cartesio non glielo perdona, perché per lui è un sistema di comunicazione più efficace. E lì c'è una distinzione fortissima. Per Cartesio il giudizio parla chiaro, Galileo faceva della letteratura quando faceva quelle cose. Voglio dire, quindi ci sono dei fenomeni anche estremamente complessi, perché L'altro problema è quali sono i paradigmi culturali, consapevoli o inconsapevoli, e qui non c'è dubbio che c'è una differenza profonda. L'università è un grande paradigma culturale, fortissimo, e che sopravvive, per aggregazioni o per chiusure. Le proposte parzialmente non alternative, aggregative, non riescono ad avere, almeno in una certa area, mai una forza di questo tipo. Ma se io penso ai lincei, non vi sono dubbi che l'accademia è un'alternativa all'università per arrivare all'università. Cesi non ha dubbi a questo proposito, se io ricordo bene, consiglia a Galileo di controllare, appoggiare l'arrivo nelle università degli uomini della nuova scuola. L'arrivo di cavalieri a Bologna è visto in questi termini, e poi si occupano persino di quanti sono gli scolari che seguono, perché questo significa un certo consenso. Questa è una cosa, scelgo un caso, ma scelgo il caso che mi sembra più tipico, perché lì è consapevole il rapporto, è un'alternativa e un'aggiunta. Viene in parte incontro a quello che osservava anche Pecorella in quell'ottimo saggio, che del resto vedo che anche Quondam ha giustamente sfruttato, che è l'alternativa e il complemento, con la capacità da parte dell'università in certe aree di assorbire. Io lascio la parola alla signora Cavazza, ma la scuola matematica bolognese, che poi resta una specie di entità veramente emergente, si lega e a situazioni pre-galileiane, ma anche a queste nuove situazioni. Mengoli e gli altri nascono in questa maniera. Era molto consapevole da questo punto di vista quella che noi chiameremmo una politica della cultura. Se ho ancora due minuti, vorrei fare un'ultima considerazione in rapporto a quella bellissima citazione che Quondam ha fatto di Pietro della Valle. Perché qui viene fuori il problema che le conversazioni possono essere di natura diversissima. Le conversazioni a Roma, ai primi del Seicento, sono le conversazioni sull'Europa, cioè sono le nuove conversazioni, quelle per le quali, e qui è bene dare la voce, Cesi diceva pressappoco in quel tempo, è necessario ben leggere questo grande, veridico ed universale libro del mondo, e fin qui. È necessario dunque visitare le parti di esso ed esercitarsi nell'osservare e sperimentare per fondare in questi due buoni mezzi un'acuta e profonda contemplazione, dove dobbiamo tenere conto che tra 5 e 600 si stanno modificando la imago mundi, perché è una geografia che muta radicalmente, e con la geografia la nozione di storia che sta diventando storia universale. Ci apriamo a degli assi che sono profondamente diversi. È qui che nasce il discorso enciclopedico, pre-enciclopedico francese, post-enciclopedico rispetto al Cinquecento. E Della Valle fa parte di questa partita, perché a parte che è un personaggio curioso che si mette in scena, e anche qui fa delle scene, perché in realtà lui teneva poi a certe cose, quindi è chiaro, da solo però si era sposato una principessa, poi se la porta quando è morta dentro un catafalco a Roma, quindi è un personaggio già di straordinaria evidenza, un grande uomo di teatro, però è anche uno dei primi che si pone il problema del persiano e si riporta a Roma moltissimi manoscritti persiani, per cui subito all'Accademia dei Lincei lo prendono, perché questa per loro è la filologia, la geografia e la storia. Queste sono le conversazioni, però sono conversazioni fondate su dei documenti osservati, su dei materiali verificati. E i materiali verificati sono per definizione qualche cosa che va anche scritto. Quindi in questo caso non so se la contrapposizione oralità-scrittura, che ha bisogno di altri, credo, coefficienti, funzioni veramente. Direi che in questo caso la scienza non c'è bisogno delle ipotesi della Yeats, ancora largamente umana, perché è sì analisi, ma è anche conversazione, è anche dibattito, è anche confronto. Quindi la situazione, credo, da questo punto di vista è composita. Va assunta questa contrapposizione della oralità e della scrittura. Però è vero che alla retorica dell'oralità tradizionale corrisponde una nuova retorica, che io la chiamerei così la retorica della scienza, se per retorica intendiamo un sistema di forme di comunicazione che dall'università debbono andare anche altrove. E qui nasce una differenza profonda fra l'accademia locale e l'accademia non locale. Nell'accademia locale la lingua può essere la lingua del luogo, ma nell'accademia non locale, nel momento in cui nasce la nozione di repubblica letteraria, che è una dilatazione, diventa lingua progressista il latino, paradossalmente, che purtroppo la nostra filologia si ostina a non studiare. Il latino dopo Lipsio, il latino dei grandi scienziati, che è un piacere certe volte leggere anche quando non si capiscono certe cose. E ci sono quindi, dico questo perché le operazioni dialettiche sono estremamente complesse, credo, da questo punto di vista. E qui nasce il problema del giornale. C'è veramente questa contrapposizione alternativa fra accademia e giornale, o se non vogliamo usare accademia intendiamo un'altra parola, io mi continuo a chiedere, quando Wittgenstein raccoglie intorno a sé certe persone, quando Max Weber incontra tutto un gruppo di persone che si appellano poi continuamente a lui, questa che cos'è? Certi fatti, non dimentichiamolo poi, era della tradizione umanistica, almeno in Italia, che i professori facessero lezione a casa. Io ricordo il vecchio Beroaldo, che era bravissimo a Bologna in queste cose, che teneva amicizie con tutti i futuri arcivescovi del mondo slavo, figli di principi. Questo, però tutto questo rappresentava un piccolo centro. Quindi non so se si debba chiamare accademia, quando però si istituzionalizzano dei rapporti nei confronti dell'università, dove per istituzionale intendo che cosa si vuol conseguire rispetto a delle istituzioni già date, lì la cosa, allora il termine può veramente essere usato, ma è un termine sublimius, per riprendere la formula di ieri, e non semplicemente illustre o basso. Da questo punto di vista, allora, il problema della comunicazione diretta e della comunicazione a distanza, perché la Res Publica chiede la comunicazione a distanza, pone anche il problema di generi letterari ad hoc. Un genere esisteva, gli epistolari dal 500, ma qui Quondam ne sa più di me, nella grande fioritura editoriale diventano un genere fortunato, non solo come modello, ma proprio come costruzione di un personaggio. Gli epistolari si prestano già per definizione, visto che il vecchio topos dell'epistola, anche quando non c'è di mezzo l'amor, è di rendere presente l'assente. E le notizie, quando non si possono avere immediate, debbono essere trascritte, purché siano verosimili e in questo caso molto spesso appoggiate da disegni, perché c'è anche questo problema. Siano misurabili, dove possibile, quindi siano oggettivabili. Dall'impressione si vada verso, grosso modo, la misura. L'epistolario sicuramente serve in questo perché di privato, visto che c'è un certo mercato, lo si può immediatamente proiettare su un piano maggiore che è una certa circolazione. È un fenomeno che si osserva tanto dentro la letteratura quanto fuori della letteratura. E quel Buchwesen, di cui anche ieri si diceva e oggi lo ripeteva Quondam, quanto sia importante. Ma qui c'è il problema del giornale. E qui dovremmo andare a vedere. I giornali scientifici, i giornali sono all'inizio dei rendiconti di libri e di esperienze. Caso ancora più tipico, Il Giornale dei Letterati, 1668 a Roma, che veniva citato da Bartoli come l'occasione per fare quello, ha dietro le spalle dei gruppi accademici e ne produce anche persissione, per cui l'Accademia è il rifornimento, il gruppo è il rifornimento delle cose dei giornali, anche perché nasce subito il problema. Prima c'è il modello del Journal des Savants e di quello inglese, e allora si traduce tutto di là. Poi bisogna cominciare a introdurvi dentro. È la politica di un editore oggi che dice: produciamo soltanto il lavoro degli stranieri, o insieme ai grandi lavori degli stranieri troviamo anche degli italiani che sanno scrivere dei libri corrispondenti. Quindi anche qui il processo è estremamente intrecciato. Certo, un giornale di quel genere ha bisogno di un'equipe, piccola ma un'equipe. Nel caso poi, se ricordo bene, del Giornale dei Letterati, viene fuori poi tutto un legame con una tradizione, perché c'è Ricci. Ricci voleva dire in parte gli eventi fiorentini di pochi anni prima, ma voleva dire sicuramente anche l'Accademia dei Lincei, e infatti comincia tutta una ripubblicazione di testi che poi in parte si interrompono perché il Ciampini immediatamente si sposta e crea tutt'altra situazione. Però giornale e gruppo, usiamo gruppo, Accademia però è la nozione che serve ancora, sono due entità abbastanza collegate insieme. La verità è poi che il gruppo, l'Accademia secentesca, può essere un movimento d'avanguardia. Quella dei Lincei io la chiamo un movimento d'avanguardia, vuole introdurre dei modelli diversi. Per intenderci meglio, nella gerarchia delle scienze vuole introdurre delle scienze portanti che non sono più quelle tradizionali o non sono più da interpretare come quelle tradizionali. Anche quando si scelgono le scienze portanti si porta in gioco un problema generale, che è il problema di un insieme del sapere, chiamiamolo poi enciclopedia o come dir si voglia. Con Settecento entrano in gioco nuovi modelli politici e già andando verso la Rivoluzione Francese accadono certi fatti, ma dopo la Rivoluzione Francese sono modelli probabilmente di questa natura che in qualche modo giocano, non la nozione di rivoluzione, ma la nozione di movimento. Ricordo che Novalis, scrivendo a Schlegel, che dice, non era una battuta per loro dire che la Rivoluzione Francese era un grande fatto insieme con il Meister, non mi ricordo con che cos'altro, dice: tu hai scritto una vera, era una battuta sul romanticismo, una vera affiche politica, che è abbastanza sintomatico. Si stanno spostando certe situazioni, nuovi modelli sono intervenuti, ceti e utopie si sono messe in movimento. Per tornare indietro, ho finito, è chiaro, l'università definisce un sapere che è un sapere con un circolo che tende ad allargarsi senza mai rompersi all'interno. Quando si danno certe accademie, non sono molte, oppure bisogna arrivare a livelli così alti che oramai è consacrato un nuovo sistema, come avviene fuori d'Italia, fra Inghilterra e Francia, le cosiddette accademie, questi gruppi, con il loro gioco dei ruoli, amministrano quelle che potremmo chiamare le micro-utopie morbide. Poi vi sono le utopie aspre. I primi non ne soffrono nulla, è un effimero che non cambia niente, il secondo è un effimero che lascia delle profonde ferite nei personaggi che li hanno sperimentati. Per questo però sono pochissimi, perché da che mondo è mondo i martiri, questa era la figura non contemplata da Ioles, sono ancora di meno. Certo, dico, dall'interno e dall'esterno bisogna fare giocare questi elementi, nel fondo vi è la storia poi di come i paradigmi culturali si modificano, era poi una richiesta che aveva fatto Kuhn, e si definisce di nuovo la differenziazione tra il sapere istituzionale che gioca sui manuali, che gioca sul sapere che è già dietro, e altre realtà informi nelle quali viceversa non conta più quel manuale, ma conta una scienza che si sta facendo. Che poi sia un paradigma nuovo o un paradigma rivoluzionario, questo è un altro discorso. Certo, quando c'è Galileo di mezzo, o anche Malpighi, quando si spostano certe aree, una certa acqua mossa sicuramente c'è. Gott siehe, weil Sie mit Spezialisten in allen möglichen Gegenden, Zeitschriften, Akademie, eine dislozierte Akademie im Grunde macht. Ich habe hinten aufgenommen, dass in den Akademien für naturwissenschaftlich-technische Fragen die lateinische Sprache, das Vulgare, zurückdrängt. Und ich möchte daraus eine These schmieden, in der vielleicht der Vergleichspunkt einigermaßen zwischen deutschen und italienischen Verhältnissen klargelegt werden könnte. Und zwar derart, dass in dem Augenblick, wo speziell in den Naturwissenschaften, die ja für ihre Arbeit Apparate, feste Einrichtungen brauchen, als die in den Naturwissenschaften die Akademiebewegung aktiver wird, das ist eine institutionelle Verfestigung über den Konversations-Null-Niveau, wie Sie gesagt hatten, hinaus haben muss. Und das ist mir das Interessante, wenn ich die Beispiele chronologisch richtig einordne, dass die im strikten, engen, naturwissenschaftlichen Sinn Wissenschaftsakademien etwa im selben 17. Jahrhundert entstehen wie die deutschen Akademiebewegungen auch etwa 1650. Man kann also vielleicht auf Thesen hinstellen, eine Gleichzeitigkeit der Akademiebewegung war Wissenschaftsakademiebewegung, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, und eine Ungleichzeitigkeit der Akademiebewegung, um das mal von Herrn Capitani aufzugreifen, was die Akademie als gesellschaftlichen Ziel betrachtet. In der Wissenschaftsentwicklung also eine parallele These, in Deutschland und Italien, in der soziologischen Entwicklung ein Vorgehen Italiens und ein Nachdenken Deutschlands. Wenn ich vielleicht in dieser Form provozieren und verkürzen sagen darf, wird vielleicht die Diskussionsgrundlage der Connect der beiden Themengruppen deutlich. Chiedo scusa, Quondam deve partire fra non molto e quindi gli dobbiamo dare la possibilità di una breve replica, anche se è uscito, ma non credo sia ancora partito perché il Mailänder è rimasto qui. Soltanto che lo dobbiamo chiamare. L'apparato teatrale, la struttura teatrale, c'è fin dall'inizio, ma se uno guarda proprio l'Accademia Platonica di Ticino, è una grande rappresentazione teatrale. Ticino che suona la cetra d'argento. Con tutte le teorizzazioni sulla musica. La teorizzazione sulla musica, poi direi sul tipo dello spettacolo, Certo. L'Accademia di Cinema è un grande spettacolo. Certo, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi, dove l'attore è spettatore di se stesso, la formula poi. Che hai detto poi molto giustamente sulla retorica della scienza che eccolo, Quondam. Dunque. Che chiedi in italiana quello che si è detto sulle accademie scientifiche o sulla realtà come Pisa, Bologna, il problema dei giornali, eccetera, eccetera, viene l'opportunità di fare una specie di ipotesi di parallelismo o di distribuzione cronologica nel mondo tedesco. Verso il 1650 anche in Germania si osservano delle accademie scientifiche. Allora si potrebbe pensare che le accademie scientifiche, con caratteri in parte come li hai descritti tu, in parte come sono stati aggiunti, siano un processo contemporaneo in Italia e in Germania, mentre invece non si tratti di un processo di questo genere quando parliamo di accademie in senso lato sociologiche, pensando ai Salon, pensando appunto alla conversazione e così via. Certo. La parola a quota. Ma dico, credo che le questioni siano tante e mi pare che sia anche complicato rispondere. Io dico, sono d'accordo e sono d'accordo anche perché sono lieto di aver appreso una serie di cose nella mia così specializzata ignoranza in taluni settori, dico, talvolta è opportuno ascoltare. Il problema di fondo, però, rispetto alla proposta che stamattina facevo, è il problema di fondo di riferire così quel minimo comune, quella forma profonda dell'Accademia alla sua storia e alla sua geografia. Ed era una battuta che in un intervento di ieri proponevo. Certo. Quindi dico, d'accordissimo, dico, si tratta di sottoporre a verifica sperimentale questo modello elementare proprio perché sia contraddetto a pezzi. Dico, quindi, va benissimo. Per quanto riguarda ciò, adesso non rispondo puntualmente alle cose perché dico, preferisco fare casomai un intervento generale, quindi mi scuso se non do elementi diretti. Per quanto riguarda, ad esempio, proprio gli elementi diacronici di questa forma istituzionale, gli elementi diacronici sono importanti, ma non nel senso di una contrapposizione. Non mi sembra di averli proposti in questa dimensione, quanto come, diciamo, punto d'avvio e punto terminale di un processo che in quanto processo ha una storia che è di trasformazioni complesse, spesso, anzi sempre, non lineari, ma con contraddizioni, come l'esempio dei gelati che erano. Quindi non si tratta tanto di pensare a contrapposizione tra un'accademia in cui si pratica la conversazione in una dimensione così di antropologia dell'oralità versus no, un'accademia della scrittura, ma vedere come nel periodo, nella diacronia, nella lunga durata di questa istituzione trasformi se stessa anche radicalmente, continuando a chiamare se stessa col suo vecchio nome. Questo è il dato inoppugnabile. Come pure non mi pare di aver proposto un tema di contrapposizione accademia versus giornale. Sta di fatto che, pur essendo accademici, no, si cercano altre forme. L'esempio che ponevo dei fratelli Verri mi pare più emblematico, ma per Ciampini lo stesso, cioè proprio nella fase iniziale lo stesso, tra l'altro Ciampini è uno dei pochi a aver dato vita a quel famoso, non accademia, cioè accademia fisico-matematica, sì, fisico-matematica non pensavo se era accademia o altro cosa, no, la chiama così, accademia fisico-matematica, poi l'accademia dei concili, tante altre cose, quindi c'è questa compattezza, però a un certo punto gli serve il giornale, bisogna inventare uno strumento nuovo di comunicazione. Lo strumento nuovo di comunicazione è da una parte perché il campo e le pratiche del sapere si fanno più complesse e sono a dimensione europea. Dall'altra perché anche sono veicolate attraverso linguaggi che devono essere mediati. Allora, certamente Galileo opera un processo che è di trascrizione linguistiche, perché si rivolge a un destinatario che è un destinatario ampio, generico, è il destinatario di un mercato librario complessivo, non è un suo collega nel momento in cui no, adotta un certo livello di comunicazione. I linguaggi e i sistemi di comunicazione si intrecciano in una rete assai complicata ed entra anche in gioco nel momento in cui la scienza acquista questa consapevolezza, no? Di essere moderna, di essere sperimentale, di lavorare con le mani rispetto alla vecchia scienza dell'Accademia Fiorentina, mettiamo, anche se erano scienziati, si riferivano scienziati, lavorano con le mani, di divulgare. Questo è il nuovo campo che si apre, si tratta di divulgare e spiegare. Quindi i livelli della comunicazione, anch'essi si fanno differenziati. Esiste il trattato scientifico, il latino, ma tutta la tradizione scientifica giuridica europea è scritta in latino. Non si è mai scritto nulla, credo io, in volgare, a meno che non siano litti o carte private, parti prese, cose di questo tipo. Ma la scienza giuridica in Europa, da che è esistita, ha sempre scritto in latino, o no? Sì, vedo grandi giuristi sul fondo. Sono schierati. Sì, che hanno messo. Quindi, lì si tratta di una piena identità, la scienza giuridica non ha nulla da divulgare a nessuno, perché esiste la professione dell'avvocato, quindi un rapporto corporativo con il proprio sapere, per cui chi detiene il sapere se lo comunica. Lasciamo stare questo elemento. Il problema della distribuzione geografica dell'Accademia. Io sto preparando una mappa diacronicamente distribuita, ma la cosa che resta interessante è che la distribuzione è unitaria sul territorio nazionale, sempre, in qualsiasi momento, dalla fase cinquecentesca di esplosione fino alla fase ottocentesca. Le accademie si continuano a fondare nel 1880, cioè c'è ancora gente che si riunisce e dice oggi facciamo un'accademia. Sono pazzi, perché nel frattempo ci sono stati movimenti d'avanguardia, gli intellettuali si sono raggruppati diversamente, è stata inventata la forma manifesto, che è un'altra delle grandi trasformazioni in tutto questo. È chiaro che c'è poi anche in questa distribuzione geografica una mutazione, no? Profonda sull'asse diacronico, nel senso che è diverso costituire un'accademia in una fase cinquecentesca o costruire una fase ottocentesca. È certamente un fatto regressivo farla nell'Ottocento. Se andiamo a vedere chi è che costituisce accademia nell'Ottocento, io polemicamente potrei dire, lo dicevo ieri a Turchetto, da quello che mi risulta dalle scrivature, non ho fatto ancora una bella scomposizione, cioè sono solo preti. Sono i preti che fanno le accademie. Può essere solo una puttata e mi scuso. E perché chi è che chiama l'Accademia Scientifica scientifica? Se la chiamano da sé. E rispetto ovviamente ad una pratica e a un paradigma del sapere scientifico che progressivamente acquista una sua autonomia rispetto ad un sapere che non prevedeva questa distinzione. Perché ripeto, la distinzione rispetto al momento fondante dell'Accademia, a parte la discussione sul primato, su chi l'ha inventata prima, perché lì non mica male, l'Accademia Fiorentina non si è posto il problema di essere scientifica o no, perché dico, il problema del suo sapere, di un sapere non distinto, all'interno del quale era scientifico parlare di teologiche disputazioni, così come di filosofia, così come di matematica, eccetera, eccetera. Nel momento in cui scatta l'appellativo, ma quando scatta, ripeto, non solo quelle scientifiche, quelle accademie d'arte, quelle accademie musicali, quelle accademie cavalleresche, eccetera, eccetera, scatta perché rispetto alle pratiche di un sapere indistinto, è chiaro che il processo è lungo, va avanti, con ritardi, è complicatissimo, io non posso che essere molto schematico e mi scuso, però si ha da parte di chi compie il gesto la percezione e la necessità di distinguersi. L'etichetta accademia può essere generica, bisogna distinguerla con il proprio di questa accademia. Il proprio di questa accademia può essere la scienza, può essere come le arti marziali. L'accademia comunque sia, io credo, dico, Beppe Olmi credo potrà smentire, credo Maccagni in questo già elementi dava, non ha mai costituito un centro di ricerca, nel senso operativo, come noi oggi potremmo, no? Un laboratorio di ricerca. Forse solo il cimento, ma non, ecco, questo adesso... Ma nel cimento il laboratorio era in sede accademica o era altrove? La definizione quondam, la definizione quondam che per esempio dà dopo aver studiato un'accademia francese, la Salomon Bélier, è proprio questa, che la differenza, almeno nella sua definizione, tra università e accademia è che l'accademia a questo punto è un, l'Accademia Scientifica è un laboratorio, è una, no, è una definizione per eccesso. Ma questo è riferimento alla campionatura francese. Metà del Seicento è il modello, però, sono alcuni modelli che circolano. Ma è il modello che poi di ritorno arriva in Italia. Questa sarebbe l'Académie Royale des Sciences. Appunto, perché l'Académie Royale des Sciences, come pure la Royal Society, a fine Seicento e per tutto il primo Settecento, costituiscono un punto di riferimento clamoroso, no? Sono proprio i modelli per eccellenza. Non c'è più tanto un collegamento, c'è come una frattura rispetto a questa grande esperienza italiana. Cioè, come un modello che ritorna, forse dopo essere partito. L'inceicimento era la storia del movimento verso questo senza le realtà politiche corrispondenti. Ci sono rapporti strettissimi. Sì, ma la cosa clamorosa, ad esempio, di questo gruppo di napoletani scienziati tra investiganti e medinacei, no, grandi medici, naturalisti, eccetera, non fanno riferimento a questa esperienza. Loro si rivolgono a Parigi e a Londra. Questo è il dato che mi pare interessante. E dico... Vabbè, io non avrei altra cosa da aggiungere. Mi pare che Maccagni ha dato tutta una serie di indicazioni utilissime e sono d'accordo. Ecco, il discutere sulla tradizione filosofica scientifica e la discussione nelle accademie, nell'insieme delle loro pratiche, a parte così l'effimero appunto dell'oralità di cui non possiamo che congetturare, su cui non possiamo che congetturare, noi abbiamo dei materiali a stampa o manoscritti che assumono grosso modo tre o quattro possibili titolazioni. Quella di lezione, che mi pare la più diffusa, quella di orazione letta o recitata in seduta, tornate accademiche. Però abbiamo anche due edizioni, sono di questione discussa e di disputa, anzi abbiamo raccolte intere di questioni, quella appunto delle Accademie degli Oziosi, adesso non ricordo con chi lo ricordavamo tra ieri e oggi, che sono veramente questioni oziose, direbbe il nostro amico Benzoni, di una oziosità mostruosa, invece. Veramente lì c'è lo spreco del tutto. Un'ultima cosa, io prima avevo omesso di dare un'adeguata risposta ad un elemento che mi sembra molto importante, che era nell'intervento di Natale, perché tutto sommato è l'elemento che poi dico, credo anche Raimondi recuperava. Io mi sono ben guardato, anche perché girano sinistre fame su certi miei interventi, dal proporre così un discorso di tipo antropologico modellizzante generale. Ho cercato, essendo qui la maggioranza storici, di mimetizzarmi. Anche se poi dico natura non facit saltus, e quindi dico a questo punto. Ma siccome non mi voglio sentire scavalcare, dare mondi in processi del genere. In antropologia. Allora utilizzo l'intervento di Natali, perché dico, mi pare che lì. La conversazione civile, la sua connotazione di civiltà, che il Guasto spiega in un modo esemplare nelle dimensioni un po' di validità europea, rinvia a un sistema di rapporto uomo e animale politico, in quanto tende a raggrupparsi, tranne l'eremita, non so chi altro, e che è chiaramente il modello antico. Di rapporto interpersonale, la conversazione, è ovviamente un modello che realizza l'uomo in questo, nella concezione appunto greco-classica, antica, e quindi è il momento in cui si giunge alla felicità. Però, dico, nella fase di ripresa umanistica, in cui queste valenze vengono rimesse in gioco, anche iperconnotate per qualche misura, la forma dialogo è interamente sostitutiva, io credo, adesso sparo, vabbè, scusate, della forma trattata. Cioè, non esiste argomentazione se non in forma di dialogo. Quindi, la comunicazione di contenuti scientifici, siano essi teorici, siano essi pratici, non può che avvenire mimetizzando una conversazione o reale o fittizia che sia. Il testo del guazzo, la civile conversazione, ovviamente non può che essere un dialogo. Ma l'ultimo libro del guazzo è a sua volta un raddoppio di questa mimetizzazione, perché la messa in scena di un'accademia che si svolge in una casa di nobili, casa Montserrat. Chiaro che l'elemento connotante è quello della maschera, della scena, eccetera, eccetera. Solo che la fase di avvio non è complessiva, antropologica, in senso così non determinato. A mio avviso ha una valenza storica precisa. Il modello antropologico, e di passaggio molto pudicamente, per evitare di ripetere cose forse altrove e a molti dei presenti già dette, è un modello specifico, è il modello cortigiano. Questa conversazione è civile in quanto riproduce la forma della conversazione della corte. Il più grande dei testi di dimensione più che europea in questo senso è il libro del cortegiano. Il libro del cortegiano cos'è? È la trascrizione di una conversazione civile di una accademia che non ha voluto chiamarsi accademia, bensì cosa? Gioco. Sono i giochi del cortegiano. Il modello che il cortegiano produce è il modello di dimensione europea, un modello antropologico a mio avviso gigantesco, che ha una parola d'ordine fondamentale, che è quella che poi consente il raggiungimento della felicità e della parola d'ordine per cui appunto il medico di un paesino, l'avvocato eccetera, trovandosi insieme passano il tempo senza pensare di sprecarlo, perché la parola d'ordine su cui questo modello antropologico che lì si forma, si connota come cortigiano, è la grazia. E la grazia, il cortigiano dice, che cos'è? È l'arte di nascondere la fatica, ecco, la esplicita enunciazione della scena, della maschera. Ma è chiaro che questo discorso, che può essere connotato, a mio avviso, in una fase di nascita, o almeno di suo affioramento in termini di discorso, perché è più complesso ed è impossibile forse in termini di discorso storico, questo discorso si intreccia con la nascita delle accademie. Le prime accademie, tutte quante, nascono a corte, o comunque sia nell'ambito della presenza di un principe. Tutte. Ma forse, non so, ma quelle per cui si discute sul primato, che chiedo la stanchezza mi fa provvilare, ma non voglio spariamola grossa. Tutte le accademie nascono, c'è un principe dietro, accanto, tra Mantova, Firenze, Napoli, dico, quelle che si contendono il primato, e a Roma, dico, insomma, è tutto solo quello del Castelvetro di Brillantoni. No, ma io dico proprio alla fase di nascita, proprio le primissime, quelle siamo 30-40. Io so, fine 400, proprio laddove si discute qual è stata la prima. Quindi non a caso l'Accademia nasce dal cuore della corte, o comunque alla corte fa riferimento. Quindi, perché insegnare